Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questa nuova puntata di OGM, Ottimisti genericamente mortificati, qua su Runtime Radio. E questa sera è una puntata scoppiettante, abbiamo tante cose da dire. Fateci immediatamente sapere se ci sentite bene. Insieme a me in studio Marco Gualdi. Ciao, è molto bello, ma io non trovo le mie cose, mi avete spostato tutto. Che cos'è questo microfono messo dal lato sbagliato del mondo? Non capisco. No, è anche la settimana era così. Ah sì, non me ne sono accorto, è passato già una settimana. Michele, Marco, tu non è che non trovi le tue cose, tu hai le tue cose, ma perennemente. Insomma. Comunque, come sentite da rumori caotici a casaccio, in studio c'è anche Michele De Paola. Salve a tutti, posso cantare già tutta la canzone o no? Canto dopo? Adesso solo Barcellona di Freddie Mercury e Montserrat Caballé, poi dopo puoi cambiare. Ok. Vabbè, no, non vi conviene. Cioè, e quindi c'è anche Walter Sbano. Barcellona. Bene, Barcellona. E Walter, vuoi presentarci? C'è un inviato. Tu hai ragazzi, attenzione, oggi abbiamo mandato un inviato, abbiamo direttamente da via Gluck il nostro inviato Simone El Montagnin Gusella. Simone, ci senti? Sì, ciao, sì, vi sento, insomma. Simone, fa freddo lì? È un pochino, piove anche, quindi insomma, quasi come a Roma, vabbè, dai, sì, va quasi. Bene così. Sembra quasi che siamo nello stesso posto. Ma c'è la nebbia? C'è la nebbia? Non è così, ovvio, c'è molta nebbia, però viene solamente dalla città, stanno esportando tutto, quindi insomma, soprattutto che... democrazia, immagino. Sì, io esporterei. Okay. Mi raccomando, non farti notare dal clan Celentano, perché tu adesso ci dovrai dare dopo, le informazioni dopo, di prima mano. Non c'è spoilerare. Se abbia Gluck. Ah, è vero. Scusa. Ragione. Però volevo salutiamo le persone in chat. Sono tantissime, Carmine Puccio Consol, Pier G, anche Michela De Paola, perché ricordiamo, Michela De Paola è un'etrina, mentre è sta ovunque. Qui, sta anche in chat. È meglio che essere una delle trina, insomma, cioè... Perché la cosa essere una in latrina è un po' triste, peggio, insomma, peggio. E nel frattempo ovviamente Gualdi deve spippiolare quei volumi e deve rompere il cazzo a tutti, poi chiaramente. Poi abbiamo Peppe Rizzard. Scusate signori, scusate, stiamo qui, siamo Jack. In diretta. Abbiamo Peppe Rizzard, abbiamo Enrico, che è uno dei primi che ci ha raggiunto in diretta, e ovviamente sempre come al solito quella pletora di pavidi, pletora a te tre quarti del condominio. E tu sorella, scusate, sì, salutati tutti, dicevo, più quella pletora di circa 1,5 milioni, ma secondo me stasera anche 1,6 milioni ascoltatori che si vergognano di ammetterlo. Attenzione, per l'angolo cultura abbiamo imparato che non c'è nebbia se si va sotto zero. Ma infatti non siamo sotto zero. Teoricamente non c'è neanche neve se si va sotto però zero, perché tutto è ghiaccio. È vero, tutto è ghiaccio, l'acqua diventa troppo pesante e burla giù. Okay, l'acqua pesante è quella con cui raffreddano l'uranio. Infatti, è molto pesante l'acqua. L'acqua bagnata. Bene, dicevamo che questa è una puntata abbastanza scoppiettante, dove appunto Simone lì, tranquillo, ti hanno dato qualcosa per coprirti, però. Sì, la famosa copertina. Mi hanno dato molte parole avvolgenti con cui riscaldarmi il cuore. È bello questi collegamenti, questa tecnologia oggi durante mese, sembra quasi che stanno qua in studio con noi, cioè una cosa incredibile. Vero, ma poi vi sento molto, benissimo, molto vicini. Esatto. Perché grazie ai contributi degli amici sul Patreon abbiamo investito in tecnologie modernissime. È vero. Ragazzi, allora, prima fatemi fare un annuncio. L'avevamo già detto settimane fa, ma questa cosa sta succedendo effettivamente. Come sapete, dei nostri podcast, scaricandoli, ascoltandoli in streaming, potrete ascoltare uno spot all'inizio e uno spot alla fine. Potrete, non è che è una cosa che vi fa piacere a voi, però ci fa piacere a noi, perché abbiamo aderito alla campagna di monetizzazione sulla nostra piattaforma di Spreaker. Quindi Runtime ha deciso, tranne Data Nightmare, di aderire a tutta la campagna di monetizzazione. Quindi vi ringraziamo anche di ascoltare questi spot che, come ho detto, saranno all'inizio e alla fine di ogni puntata, di ogni podcast, perché insomma ci permetteranno, insomma, di pagare di meno, insomma, ricordiamoci che non lo facciamo per guadagnarci, perché siamo anche volendo ben lontani, però insomma andare a zero ci farebbe piacere. Ma ci vengono a desordi, ci vengono a sponsorizzare, ma che lo fa? Guarda, dire, perché abbiamo già guadagnato. Sì, ma dai, sì. Ma questo sti coglioni, ma che dovete dire? Diventeremo rappresentanti dell'UNESCO anche noi. Vero, potremmo. Questo allora, cominciamo a diventare dell'UNESCO. Forza tutti quanti, veniamo dall'UNESCO. Noi potremmo vincere a Maria. Allora ci fanno presidenti dell'UNESCO. Ma perché fai, condividi il microfono con Michela. Scusate, volevo lanciare mettetevelo in mezzo, va. Volevo lanciare un appello. Ovviamente magari questo non, diciamo, non sarà notato tantissimo dagli ascoltatori, ma state strillando come le faine. È vero, hai ragione. No, assolutamente vero. Perché siamo tutti molto molto esaltati. Sono abituato con un mezzo. Ma perché la puntata e la serata è talmente pregna che adesso si sente benissimo Gualdi e si sente benissimo Gusella in collegamento da via. Salutiamo Fabio Parola che ci ha raggiunto in chat. Che non sappiamo chi sia, poi. Però benvenuto. Però, insomma, è Fabio. Di Tecnopilz, forse riconosco l'avatar Massimo, ma ha fatto benissimo, dai, tutto a posto. Quindi, allora, di questa sera, questa è una puntata importante. Noi volevamo fare uno speciale che abbiamo deciso, insomma, di procrastinare. Perché... sentire roba, mannaggia, mi italiano, cioè, proprio. E l'abbiamo procrastinato perché questa sono successe delle cose importanti questa settimana, sia dal punto di vista sociale, sociopolitico, che dal punto di vista anche dell'intrattenimento, perché insomma l'industria di intrattenimento ci ha regalato momenti veramente molto molto molto preziosi. Lo avete capito anche dal titolo della puntata, che si intitola Adri Amo! Esatto, staccato, è importante questa cosa. Fa ridere questa cosa, Gusella lì a Milano. Sì, fa un po' meno, ridono. Un po' meno. Scusa, Gusella, una cortesia: dovresti fermare il primo passante e chiedergli se è meglio un culo caldo in panza o una panza calda in culo. Grazie. Ma scusi, lei, buon uomo, buon passante. Secondo lei è meglio un culo in panza o una canza in culo? Panza, panza è sempre buona. Panza. Ah, bene, bene, grazie, grazie. Beh, come avete sentito. Ma scusa, ma aspetta, Simone, dall'accento ho capito una cosa. Sei a San Babila, non sei a Via Gluck. Ti dovresti spostare. Sì, vabbè. Ma io porto con me le mie origini. Ma no, c'è quel tizio era palesemente, secondo me, forse un immigrato. Era un immigrato. Ci sono solo immigrati nel nord. Secondo me è scappato dal CARA di Castelnuovo di Porto. No, non sono immigrati. Comunque, sono risorse. Sono risorse, per favore. Sono risorte? Che risorte? Vabbè, comunque quando insomma... No, ma allora, devo dire, no? Sei cascata male. Sì. Che proprio quest'alta televisione di questa settimana, io nella mia vita, come dire, nei miei 40 anni non mi sarei mai aspettato di arrivare a cotanta, come dire, a proprio l'esaltazione dell'egocentrismo e ecco, io non so neanche come introdurla questa cosa. Cioè noi l'avremmo già introdotto. Se nella nostra banca dati musicale, che sapete, insomma, diciamo è l'unica radio al mondo che penso che guarda, noi al massimo abbiamo la banca dati del seme. Abbiamo 100 megabyte di musica, no? Quindi se ci avessimo avuto l'avremmo introdotto. No, ma le canzoni sono tante, che sono in name beat. Però se fai avvicinare Michela al microfono. Tanto è inutile, non sta dicendo nulla, guarda se c'è attacca il cellulare. Michela, introduci musicalmente. Che siete sposati? Che cosa? Introducimi musicalmente. Non dire che cosa. Vai, vai, prego, prego. Questa è la storia di uno. Basta, va bene così. Basta, mamma mia. Scusi, Gusella lì a Via Gluck, che dicono di questa Via Gluck? Via Gluck. Via Gluck. Ah, guarda qua, è tutto un clima di festa, qua veramente è attenzione, benissimo. Sento della melodia sotto. Sì, me lo stanno dando. No. Manca, via. Questa è la brutta storia di Manca. Questa è la storia di Vacca Vittoria. Muore la vacca, finisce la storia, insomma. Però. Siamo tutti figli di Via Gluck. Bravo, bravo. Quando si poteva fare affari sua, giustamente. Esatto. Poteva insegnare la filastrocca, no, una canzone. Vabbè, basta, dai, andiamo avanti. Quindi insomma, ci teneva tantissimo Walter, perché dicevo, ragazzi, io me lo so visto, ma non è che me lo so visto per curiosità, non è che l'ha visto perché gli piace, l'ha visto per... feticismo. No, come posso dire? Sì. Per amore della scienza. Esatto, per un dovere civico. Studio antropologico. È uno l'abbiamo sporco visto lavoro. Non lo vediate voi. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Per lo studio di un antropomorfo chiamato Celentano. Pensate che l'ha visto anche Gusella, illegalmente. Ci ho provato. Ma quello sono illegalmente. Non ho voluto regalare visualizzazioni. Già è un crimine quella cosa che abbiamo visto. Già il fatto che sia stato fatto è un crimine, è un crimine. Prego, prego Walter, prego. Facciamo qualche piccolo antefatto, perché bisogna introdurlo. Antefattiamo. Allora, questo prodotto televisivo di altissima televisione, stiamo parlando di Adrian, questo Colossal che ci hanno venduto per Colossal per 20 giorni, in realtà era da anni che se ne parlava nei corridoi, perché dovete sapere che questo prodotto è nato dalla volontà, diciamo, assolutamente ferrea di Adriano Celentano e del suo, diciamo, clan autoriale circa 11 anni fa. È un prodotto che è nato e che era stato originariamente pensato per Sky, ma a quanto pare a un certo punto del suo percorso Sky ha preferito, come dire, declinare e quindi ha rinunciato a questo prodotto. Abbiamo detto, è un po' come ha fatto Netflix con i cortometraggi di Star Trek, tanto produrre il suo cartone animato certo, è molto bello, vorremmo faccia silenzio, sto parlando con il signor Celentano, canta canta Michela, canta. Vorremmo tanto produrre il suo cartone animato, perché ci sono delle potenzialità, vero ragazzi, però secondo noi è una merda. No, ma era merda. Non lo possiamo. Diciamoci la verità. Diciamo, può essere Milo Manara. Non volevo fare spoiler, no? La mano Denara. Il giudizio, no, non subito. Poi dicendo merda, ho spoilerato. Allora, diciamo che, come posso dire. Chiedetelo in mezzo il microfono. C'è in mezzo. No, lei sta laggiù. Ma lei sta laggiù perché gioca al cellulare. René Ferretti con gli occhi del cuore avrebbe fatto meglio. Io vi dico solo questo. Però, insomma, questo prodotto che quindi poi non sappiamo bene perché, per come, per quando, è arrivato su Canale 5. E fino a qua. Che ha deciso di produrlo e saggiamente di trasmetterlo fuori periodo di garanzia. No, non che prodotto. Che è il periodo di garanzia? Quello di 30 giorni prima di restituirlo. Il periodo di garanzia è quel periodo durante, fuori fascia di garanzia, durante il quale, che va da dopo Natale, mi sembra, fino a marzo, durante il quale la registrazione degli ascolti non contribuisce a formare i listini delle tariffe pubblicitarie. Quindi sostanzialmente è quel periodo, diciamo, di inverno in cui mettono i prodotti di seconda qualità, perché tanto sanno che non ha un impatto sulle tariffe dei listini. Diciamo, è un discorso molto tecnico. Oh, ammazza quanta staffa lunga, ma noi vogliamo sapere di questo. Arriva questo prodotto. Perché fa freddo. Arriva questo prodotto. Morto freddo. Ci deve essere già un vago sospetto sulla qualità reale, data dal fatto che sono circa 20 giorni. Che, come fosse, diciamo, come dire, un messaggio di tipo quasi militarizzante, proprio di regime, su Canale 5 in particolare, ma su tutte le reti Mediaset, a ogni pelo di culo parlavano di questo programma come fosse un prodotto, un colossal d'animazione, come fosse chissà quale enorme culo, evento. È un culo. Scusa, posso chiederti quanto è costato questo culo, Sal? È svariati milioni di euro, però di cui il 60% va bene, sono di promozione. Lazzi se l'è presi Adriano. Ma si parlava, chi diceva 12, chi diceva 20, non l'ho capito, però svariati. Il concetto poi dov'è? Che negli ultimi giorni hanno iniziato anzitutto ad ogni telegiornale a dedicare gli ultimi minuti a questo show che stava arrivando, ripetendo ogni giorno come un mantra le stesse parole. Poi si è cominciato a vedere questo spot televisivo ridicolo, ragazzi, cercatelo, in cui praticamente, quasi come fosse un ragazzino, Celentano si fa una sorta di selfie in bagno, allo specchio del bagno, con la telecamera, con una telecamera televisiva, in cui si inquadra lui con gli occhiali da sole mentre canticchia qualcosa di in pseudo inglese, mentre fa delle smorfie che parevano i personaggi. Quello, sì, una cosa assurda. Però scusa, queste brutte cose che tu stai dicendo, tra l'altro, cosa che ha fatto incazzare sui social network, milioni di persone che il programma uscisse, perché al partire di questo spot il volume delle loro televisioni impazziva. Una cosa scandalosa. Però poi alla fine siamo arrivati a lunedì. Finalmente ci siamo arrivati. Secondo me, però, scusa, posso interromperti? No? Secondo me c'è la massoneria dietro. Ma non so lì a via Mook lì che cosa dicono. Che dicono? Qua stanno già dormendo tutti. Qua, come? Non c'era la festa prima? Sì, ma è già finita. 10 minuti, che presto le veste. Non so. Scusa, ma sei tu in collegamento? Dovevano rimanere a via Mook. Alle 6:30 si sono fatti il risottino. Alle 7:15 si sono fatti la cotoletta alla Milano. E poi tutti a dormire. Quindi non c'è nessuno da intervistare. C'è gente che si lamenta comunque. No, nessuno di sveglio, ma possiamo prova a chiedere a qualcuno in qualche casa. Sì, mi scusi. Lei ha visto Adrian? No. Come no? Glielo faccio vedere adesso. Venga che glielo faccio vedere adesso. Allora, ragazzi, glielo faccio vedere tutto. Ma ti ha insultato, scusa. Ragazzi, scusate, io ho, visto che vogliamo andare per gradi, lo spot. Ah, lo spot, io non l'ho visto. Ve lo mando in chat e ve lo mando in audio. Mandacelo in audio, allora, mandacelo. Allora, prima do tempo a tutti quanti in chat di prepararsi, perché veramente va visto, è qualcosa di clamoroso. Dopodiché, se siamo pronti, io vi mando l'audio di... E invito poi tutti a vedere anche le immagini, perché senza le immagini non rende. Vabbè, io sono pronto, vai. Al mio 5 facciamo play tutti quanti. 1, 2, 3, 4, 5, via. Ma che dice? Niente. Fondamentalmente è quando tu dici Mad Me One Fast One Games, che fa ok, la scan è Frank and Nowhere. Bravo, esatto. Ma va, che cosa? Che effetti, però. Cosa? Il cartone che balla è bello. Bello. Non è il cartone. Che è? Cristiano. È un alieno. È un povero Cristo. Vabbè, comunque, insomma, io direi che adesso possiamo sfumare. È nuda col culo di fuori. È tutta la storia è così. No, stiamo anticipando. Allora bisogna guardarlo, insomma. Allora, stiamo anticipando, perché qui sono entrato in modalità riassuntino di Gualdi, perché è doveroso. Sì, ma riassunto sigillo. No, deve essere almeno 80 minuti. Allora. Vedi, hai trovato un alleato, Sbano. Allora... Cioè, questo show è un ibrido. Ma morì mentre vai, allora, tutto. Perché invece questo no. Dai. Allora, questo show è un ibrido, nel senso che parte con una prima parte in teatro, in cui dovevano esserci, questo è stato detto per mesi, e così doveva essere vero fino a domenica sera, come, diciamo, protagonisti, nell'ordine, Michel Hunziker, Teo Teocoli e Ambra Giolini. Durante le puntate poi sarebbero dovuti, diciamo, aggiungersi anche Nino Frassica ed altri. Benissimo, domenica sera, dopo tanti giorni di prove, senza un copione, senza la presenza di Celentano in teatro e tutto, sia Michel Hunziker, sia Teo Teocoli, sia Ambra Giolini hanno detto vabbè, bella, e noi se ne andiamo. Bella. E quindi praticamente lunedì si sono trovati a dover riorganizzare la puntata in fretta e furia, perché gli host se ne sono andati tutti. Io avrei chiamato Asi Argento. Per fortuna che Adriano Celentano... No, perché secondo me Asi Argento c'ha più dignità. Ha voglia. Per fortuna che Adriano Celentano... Nonostante tutto. È successa una cosa storica. Stavo provando a dirvi comunque una cosa, ma vabbè, fatti cazzo. Faccio parlare, però ci siamo persi per un momento storico. No, diciamo. Vano a difesa di Asi Argento. No, non l'ha difesa. Adesso che c'è di meglio, diciamo che questo buco temporale fisiologico di personaggi è stato coperto grazie a Celentano, per cui è abituato alle pause, quindi si ferma ogni tanto mezz'ora, 40 allora, minuti. Ragazzi, fatto sta che, insomma, con Nino Frassica dei tempi migliori, ma lo dico in maniera ironica, con le sue classiche battute sui giochi di parole, e insomma una serie di scenette tirate solo l'ultimo momento, compreso un monologo di Natalino Balasso, quello per la verità carino, introduce finalmente, parte sto cartone animato e tu dici cavolo, musiche di Nicola Piovani, disegni di Milo Manara, tutta gente che c'aveva un cazzo da fare, animazione con non so quanti milioni di euro spesi, poi questa cosa andrei a verificare. Che cosa avremo mai? Avremo praticamente un'operazione degna di Netflix, un prodotto stratosferico. Io ho resistito un quarto d'ora, poi avevo bestemmiato così tanto che mi ha citofonato Gesù Cristo e mi ha detto te prego calmati. E detto ho smesso. Ma questo era quello di prima, l'avete registrato. Ma era Gesù a cui citofonato. Sì, può darsi. Sì. Io però mi ricollegherei un attimo con Milano. Se, guarda, c'è quella signora lì, prova un po' a intervistare quella signora. Sì, scusi, bella signorina, cosa ne pensa? Lei ha visto Adrian, la serie Evento? Ma noi qua questa roba non la guardiamo mica. Ma come no? Ma scusi, ma lei a Milano parla così? Ma davvero? Ma davvero? Guarda. Figa, ma che accento c'hai? Oh. Cazzo sì, Vabbè, dai, cacciali. Ma tiri una pesciata fin del Cuba. Vabbè, dopo queste lezioni di guarda. Gusella, alla prossima persona che fermi, fagli il test della cadrega. vabbè, comunque, arriva questo show. Inizia sto benedetto cartone. Allora, scritto show. Scritto allora, show. Vi racconto l'incipit della trama. Siamo nel 2068, in Italia, a Milano. Milano. Ah, quindi è nel futuro, sì, è tipo Blade Runner. Esatto. Sì, c'è una Milano che sembra una New York del 2020. Diciamo che per costruirla non rasa al suolo Milanello, Milano 2, 2, 3. E c'è Via Clou. Allora, aspetta, non anticipare i tempi. C'è questo scenario in cui, diciamo, fondamentalmente sembra la versione disegnata della Milano di adesso, non più non meno, della parte centrale dove ci sono i grattacieli di Unicredit, quella zona lì. Però lì, in mezzo a tutta questa, diciamo, a questa marmaglia, controllata da questa mega corporazione che non si sa bene chi sono, c'è una zona, tra virgolette, rimasta lontana verde, nel tempo, verde, che è Via Gluck. Ah, vedi, ferma nel tempo, perché l'ha protetta lui. Fatto sta che in questa Via Gluck vive questo Adrian, che è l'avatar, diciamo, 35enne circa, di l'Adrian Palestrato 35. Tra l'altro sì, si vede anche negli spot con due pettorali larghi come l'armadio, sì, di casa mia, è fighissimo, che non ha mai avuto poi, tra l'altro, però doppiato da Celentano, quindi partendo dal presupposto che lo sappiamo tutti, Celentano poi così bravo a recitare non è mai stato. No. In più c'ha la voce di un ottantenne rimbambito sul personaggio. Scusate, io questa cosa però vorrei dire che in Bingo Bongo ha recitato benissimo. Bingo Bongo. Quando faceva la scimmia. Però insomma ha recitato benissimo. Ma Bingo Bongo in culo dello Bongo. Bingo in culo dello Spingo. Era Bingo Bongo, assolutamente. Scusa, ma non vengo. Questa è una delle puntate migliori comunque. Una delle puntate migliori del 2019. Scusa Walter, tu praticamente mi stai facendo capire che hai provato quel senso di asincronia così quando hai risentito la voce di Darth Vader praticamente nel primo film della nuova trilogia, che era doppiato dallo stesso doppiatore, che nel frattempo è Padme. No, dove si trovano questi ribelli della forza, dove sono le fecce ribelli? Ah, ma questo è l'imperatore. Episodio Rogue One. Non me lo ricordo, su Rogue One. C'è un Darth Vader che in teoria è più giovane, però dato che per omaggio l'hanno voluto far ridoppiare allo stesso doppiatore. Ah, non me lo ricordavo. Ragazzi, però un momento, perché il meglio deve ancora venire. Giusto. Perché allora devo ancora cantare. Noi le zinne. Ma quelle arrivano subito. Devi aspettare un minuto. Questo alter ego di Celentano, che si chiama appunto Adrian, fa l'orologiaio nel 2068. Non chiedetemi perché non c'è. La cosa grave è che già dalle prime scene, dalle prime interazioni con il resto delle persone, parla con le classiche battutine che faceva nei film anni 80 lo stesso Adriano Celentano, e dice cose completamente senza senso nel contesto. Dobbiamo parlare delle due vecchie Andride e Carbonica. Le sciure milanesi, quelle che sanno tutto del quartiere, che sono praticamente questa specie protettrici del quartiere, non si sa. Ma arriva subito la bomba, perché arriva la protagonista femminile, che è anche in questo caso la versione turbofregna di Claudia Mori da giovane, disegnata da Milo Manara. Però Claudia Mori da giovane era fregna. Disegnata sui concept di Milo Manara è ancora più fregna. Ah, beh, certo. Perché ha un corpo da dea e fa tutte uguali. E Milo pensa Manara, solo a scopà. Perché il problema di questo personaggio. E fino a qua niente sbagliato. Noi incentiviamo l'uso dello scopare. Brava. Ragazzi, nei primi 5 minuti di questo episodio, lei si è abbassata le mutande, alzata la maglietta 3 volte. Nei primi 5 minuti. Nei primi 5 minuti. Cioè, tipo, mi porti il cappuccino? No, ma tra l'altro c'è sta scena in cui, vabbè, praticamente loro due. Aspetta, da Gusella da Milano, sì, dici. Volevo dire qui dalla caldissima Milano che a un certo punto i due. Vabbè, non sto a fare spoiler perché immagino che tutti vogliano vederlo. Vabbè, si spostano da casa a un altro posto. In bicicletta, sì, in mezzo a tutte le macchine. Tutti sta cosa. Sono gli unici due in bicicletta. Sono arrivato alle biciclette io. Gli unici due in bicicletta, ma vabbè, fa niente. E fatto sta che per 3-4 minuti si alternano scene di loro in bicicletta in mezzo al traffico. E loro che scoprono. Ripetuta all'infinito. E loro due a casa nei minuti precedenti però utilizzando non disegni animati. Quindi bozzetti animati come si farebbe. Ora, come chi si anima conosce il mondo dei fumetti e chi conosce il fumetto erotico di Milo Manara capirà che comunque gli ammiccamenti, diciamo, i riferimenti sessuali sono relativamente espliciti. Un programma che va in onda alle 9:30 di sera. Anche questo. E quando ovviamente non c'era modo più gratuito di mettercelo quel sesso, perché se tu parti così e questi subito formicano come due disgraziati, ma sì, poi esatto. formicano come due disgraziati, secondo me scopavano comunque. Io vorrei dire, a casa mia si dice scopare, non lo so, scopare. Scusa, aspetta, no, vedo qui dallo schermo è arrivato Stefano che ci saluta e dice, vi dice solo due cose. Adrian, c'è l'eco. No, vabbè, esatto. Adrian era la prima, la seconda non so. La seconda? Elino Baffi, tranquillo, è quello che stiamo parlando, quindi non è che... Comunque vedo dal collegamento da Milano, Stefano, tu sei arrivato adesso, devo cantare. Simone, guarda che dietro di te c'è un tizio pelato, fagli una domanda, fagli ah una sì domanda, lì da dove arriva il brilluccichio, sì. Buonasera, l'ho vista subito da lontano sotto i lampioni, ma lei l'ha vista la serie Adrian? E cosa ne pensa? È veramente questa serie evento che tutti dicono? È vero che è molto... Scusa, insomma... Però spiegagli al signore che non, se fai gesti la radio non... Traduco. Ci descriva, Gusella, cosa dice che ha delle mani molto grosse... Sul petto. Sul petto, sì. Gli si gonfiano le mani sul petto. Anche il sedere, dice che gli prude il sedere, quindi... Vabbè, ma che cazzo di gente c'è a Milano, scusate? Gusella viene da lì, ma è un giargianese di sicuro. Ah, un giargianese, ok. Vabbè, continuiamo, quindi zinne, scopate e biciclette, questo è fino adesso. Ora, per qualche per motivo, ma c'è un plot però per andare al grande storia, concerto, cioè, non sono riuscito ad andare abbastanza avanti per capirlo se c'è un plot, però diciamo che vi spiego perché ho smesso plot, di vederlo. Sì, cioè, e non è neanche male. Aspetta, me. Vi spiego io perché ho smesso. Allora, abbiamo detto che a Milano c'è questa mega corporazione che controlla un po' no, tutto. Allora, la prima volta che una radio blasta un proprio ascoltatore, ma ci tocca, perché purtroppo sì, ci tocca. Stefano ci ascolta sempre. Ha detto, dice, ci ascolta domani perché non va a vedere l'Isola dei Famosi. No, dai, cioè, vai a vedere Adrian piuttosto. Esatto. Cioè. Mamma mia, esatto. Scusa, Walter. No, è che mi sono rattristato. Però dicevo, c'è questa mega corporazione che controlla tutta la media città, che è la mega praticamente nei loro sogni. In tutto questo, ragazzi, un altro particolare è doppiato in una modalità che sembra spot televisivo, cioè sembra essere stato doppiato in economia direttamente a Mediaset, non in uno studio di doppiaggio. E le voci sono tutte quelle che sembrano gli speaker diciamo degli spot pubblicitari, proprio un'impostazione fastidiosa. Comunque, tolto questo dettaglio secondario, c'è questa corporazione che sta organizzando il concerto di fine anno, praticamente è Capodanno, ma un Capodanno particolare, non si vede nessun riferimento a Natale. No, perché è un concerto annuale che non si sa per realtà. Si va a questo concerto dove veramente una sorta di evento per, come dire, per controllare le masse, le folle, il cui protagonista è questo cantante dell'epoca iperfamoso. Silver qualcosa, che lo vedete assolutamente. Silver Zeffer. Sale in... Allora, prima che ricordiamo che Simone Gusella quest'estate ha fotografato. Sì. Ragazzi, questo cantante sale sul palco, intona una canzone e non sto scherzando. Questa la dobbiamo spiegare. È una canzone De Negro Amaro, cantata De Negro Amaro. Quindi De Negro Amaro sono il male. Che tu dici, ma se nel 2068 sta cantando una canzone del 2015 De Negro Amaro, perché? Perché tu, quello che non sai è che nel 2022 hanno scoperto il gene per non morì. Vabbè, fatto sta che loro sul palco non ci sono i Negro Amaro, sul palco c'è un altro. Però vabbè, non è che l'hanno detto la cover band dei Negro Amaro, c'è Silver Pippo. E in tutto questo, Silver poi, dopo aver cantato questa canzone, lui che fa? Sfida uno del pubblico a salire sul palco a cantare una canzone. E ovviamente questo colui chi sarà? Sarà Adrian. E mentre Adrian sale e canta una canzone completamente, anche quella fuori contesto, perché è una canzone musicalmente vecchia, sto Silver, come cacchio si chiama? Silver. Van Camonino, che fa? A scopa! Con delle minorenni. Con la moglie di Adrian. Tre minorenni, bravo. Fatto sta che la corporazione, quando vede sto tizio sul palco... No, però possiamo dire... Cioè, ma qua, io continuo a dire... Qual è la storia? Non lo so! Te la spiego io. Di che parla sta cosa? Allora, in collegamento con Gusella ci spiega la storia. Qui da Milano, abbiamo già visto il finale qua a Milano. Perché loro stanno avanti, non stanno solo a nord, stanno avanti nel tempo. Perché praticamente la serie inizia in origine, c'era la guerra, la violenza e i soldi che governavano il mondo, e i morti che governavano i soldi, vabbè, le piramidi e i nazisti, tutta sì, roba. Tutta questa introduzione praticamente il succo è la storia si ripete, siamo nel 2068 a Milano, c'è e questa, ancora così, e c'è ancora, diciamo, Berlusconi, esatto, c'è questa specie di partito fascista, possiamo dire, no, che sopprime la libertà, bla bla, e c'è appunto Adrian che è il difensore della libertà, è il povero che esalta le masse a ribellarsi contro questi qui ricconi, bla bla. C'è questo concerto a cui lui va e non si sa perché, vabbè, non si sa perché, nel senso, è il protagonista, viene scelto per cantare sul palco e allora canta questa canzone mentre il cantante del concerto vero va a sbombare. Canta questa canzone, non capisco perché tutti sono felici in queste case minuscole, cioè una canzone, una, diciamo, una canzone che tra l'altro aveva una strofa brevissima ripetuta all'infinito, una cosa ridicola. Sì, erano tipo 50 parole sta e canzone. E poi c'è uno stranissimo loop, perché nel tempo di una canzone in realtà il cantante che invece si doveva esibire, che va nel camerino a scopà, pare che abbia avuto il tempo di andare da tutt'altra parte. Cioè c'è proprio un salto temporale che non volte, si spiega, no. Ed è andato anche, ed è tornato, ma poi cosa succede? E lì comincia il mistero, l'intrigo. Nel momento in cui lui sale sul palco, tutte le telecamere della città smettono di funzionare, cioè, questo è il top, ragazzi. E nessuno si ricorda che faccia c'ha questo Adrian. Cioè praticamente allora Adrian canta questa canzone, diciamo, rivoluzionaria. E al telegiornale dicono: ah, questo concerto dell'orologiaio, cos'è che era? Tipo aperto una singolare, no, un campo elettromagnetico che ha devastato le apparecchiature elettroniche. Cioè, una roba proprio così, a cazzo de gara. J.J. Abrams, ne avrebbe fatto lì, un film. Cioè. E lì c'è il momento, il cambio di inquadratura che mi ha fatto bestemmiare l'ultima volta e cambiare canale. Perché stacco d'immagine, la scena va al quartiere direzionale di Napoli, al centro direzionale di Napoli, inquadratura dei palazzoni del CDN di Napoli, cartello sul grattacielo, Mafia International S.P.A. E lì ho spento. Executive producer... E lì ho spento. Anche Matteo Salvini. No, ma poi oltretutto è offensivo due volte, perché allora scrivi Camorra S.P.A. Che cazzo c'è, voglio dire. Vabbè, questa è l'ignoranza generalizzante del nord. E poi, vabbè, pure... Senti cosa ne pensano lì a Milano di questa cosa. È meglio la Camorra o la Mafia? Siamo così ignoranti che non pensiamo qua a Milano, mi dispiace. Ma... No, quello che pensi tu, cosa pensa la gente. Cioè, Mafia, esiste Mafia Capitale, non Camorra Capitale. Ma a Milano la Mafia non esiste, cosa vuoi che no, dica che la gente? Che ne sa, non lo sa. Ma a Milano c'è l'Andrangheta. Secondo me si confondono perché non esiste e quindi non si confondono. Senti, Gusella... Io scusa, posso chiederti? Sì. A questo punto facciamo un giro d'opinioni, perché cioè, abbiamo capito che... Prima delle opinioni volevo fare una domanda tecnica a Gusella, che in qualche modo lavora in un settore che... Abbiamo detto che da un punto di vista, diciamo, del concept grafico, i disegni sono pregevoli perché sono di Manara, e vabbè. Ma dell'animazione, tu che forse tra noi sei quello che in qualche modo si avvicina un pochino di più a questo mondo per mestiere, che ne pensi? A me tendenzialmente sono piaciute. Guardo anche molte serie, ma anche prodotte da Netflix, quindi insomma non serie, diciamo così, povere, in 2D. Devo dire che a livello di animazioni tante cose sono fatte molto bene, ma anche delle semplici camminate sono molto più studiate rispetto ad altri prodotti. I concept sono carini. Beh, ripeto. Non lo so, io è già il secondo che sento che dice una cosa del genere, quindi non so se cominciare a crederci a questa cosa. Ma allora, la tristezza di cui mi avete raccontato la trama. Sì, sì. A sì, me l'animazione è sembrata un po' complessivamente un po', diciamo, fuori tempo massimo, nel senso che comunque mi sembrava molto anni 90, un'animazione 2D fatta con strumenti quasi un po' datati. Top motion, cioè non è un'animazione sembrava fluida, quasi qualcosa fatto animazioni fatte con rotoscopio. Comunque, perché ce l'hanno, sono molto realistiche su certi movimenti, però poi a un certo punto magari si perdono dei frame. Sì, c'era qualche anche, volta c'era vengono anche utilizzate qualità da scena a scena, esatto, vengono utilizzate le paragolate di rimettere le scene, ma si frame che si sono persi poi dopo li ritrovano oppure no, comunque dicevo vengono spesso riutilizzate. Sì, c'è un pezzo vengono riutilizzate alcune scene. Oh, fatelo finire, perché sennò stasera è un bordello. fatemi finire. Canta Michela, canta Michela. Regà, finitelo, siate magnanimi. Cantagli sopra, dai, falla finita. Vengono praticamente riutilizzate alcune, no, per carità, vengono riutilizzate le scene, a volte rimandate all'indietro, oppure rallentate, lì si vede praticamente se è una scena, se in due secondi di scena ci sono 30 fotogrammi, mo sto sparando delle cose, la metti a rallentatore, questi 30 diventano 15, quindi viene una merda, ci sono proprio gli scatti, ma usano quasi delle tecniche così per sperimentare, ma in realtà secondo me vanno qua è un collage di tecniche diverse, cioè sì, ogni scena è diversa da quella prima, sì, da quella dopo, e poi la produzione è tipo Celentano Production, ma ripeto, non è che l'hanno fatto loro, hanno allora, fatto i coreani probabilmente lì, sì, tra sì, del nord, tutta una discussione generale nord, su come questo, abbiamo già detto, però ripeto è un progetto nato 11 anni fa, discorso. Quindi vabbè, questo sì, è già indicativo, e poi ricordiamoci, per chi non lo sapesse, sono qualcosa tipo 8 episodi da 45 minuti, cioè 9, non è 9 episodi, non 45 è... minuti, poi sono boato per un'animazione di questo, diciamo che sono 18 puntate di un cartone animato, uno a sera, hanno fatto lunedì e martedì le prime due puntate sempre anticipate, quindi altre due, altre 8 mesi, lunedì e martedì questa settimana, dalla prossima credo tutti lunedì solo, sì, per sì, fortuna, e basta, grazie, perché... a Dio. Tra l'altro gli ascolti Auditel sono indicativi, perché la seconda puntata l'ha vista la metà della gente della prima. No, il 10%. Ma perché non lo sapeva che era il giorno dopo? La settimana prossima che c'è, vabbè, comunque la pubblicità non aveva un volume abbastanza alto. Allora sì, io vorrei fare un giro d'opinioni lasciando Walter per ultimo, perché giustamente lui ha iniziato, diciamo che la cosa e la chiude, quindi la chiusa. Ma Marco, insomma, tu l'hai visto, eh? No, non ho visto tutto, non ho visto la metà, però quella metà mi è bastata. No, ho detto che l'hai visto, non ho detto che l'hai visto tutto. No, sto specificando che non l'ho visto. Vabbè, ma che cazzo stasera, devi sempre specificare. Ma comunque mi pare un po'... cioè... ma c'è del ciclo, c'è del no, ci abbiamo il triciclo. No, comunque posso solo dire un puff, cioè non mi ha lasciato niente, non mi è piaciuta, non la trovo completamente inutile, e soprattutto mi domando, ma a chi cazzo è rivolta? Cui protest? A chi giova? È la domanda a cui nessuno saprà rispondere. Ai vecchi. Stranamente piace ai vecchi. Vabbè, c'è il Sidney. Strano, perché quelli di una certa età hanno il preconcetto per cui il cartone animato è per bambini e basta. C'è Adriano, c'è comunque la bella donna. Il pelo, ragazzi, è tutto, vince sempre il pelo. E la donna, che la vecchia, che dice: vedi quando era brava che si scopava le belle donne, questo sì che era un uomo. Forse per alimentare un po' il mito di una volta, di lui che era un bell'uomo, che comunque... che c'ha avuto solo lui. Scusa, ma una domanda, tu che sei donna, mica è mai stato un bell'uomo? No. No, io posso dire che poteva essere, come posso dire, affascinante, perché te faceva ridere. Sì, era per un piagne te faceva ridere. No, dai, no, devo dire che lui quando faceva i film a me non mi dispiace. Cioè, non come attore, perché, però era divertente, carino il personaggio. Io, per esempio, ho apprezzato un sacco il programma che lui fece alla Rai qualche anno fa. Quello delle pause. Quello lì che diceva chi era rock, chi era lento. No, io no, io non l'ho mai... Vabbè, poi sono... C'ha avuto un sacco di spalle, cioè nel senso un sacco di personaggi. C'ha pure rotto le spalle comunque. Sì, esatto. Però non erano le sp. No, assolutamente. Però devo dire che non mi è dispiaciuta neanche a me quel programma. Posso dire una cosa sulla... il personaggio femminile, quel poco che ho visto. Se proprio devi. Sì, però riassumi, che... ma no, so io, se mi interrompete non riassumerò mai, continuerò a ripetere sempre le stesse cose. È colpa nostra. Perché lui non è che va avanti, lui ricomincia ogni volta che tu lo interrompi. Assolutamente. Giusto. E il personaggio femminile, come si chiama? Gilda. Cioè, mi esce fuori come Gilda. Una, nelle migliori delle ipotesi, come una milfona di quelle proprio. Che milfona che ci avrà 25 anni? No, sì, 25 anni dici? No, secondo me lei è più giovane di lui. Secondo me, sì, non comunque più di 30, una maniaca sessuale, proprio un erotomane, cioè proprio. Non ci fa una bellissima figura, però vabbè, alla fine scopa soltanto essendo lui, una, forse, sì, però essendo una serie forse, che vorrebbe in qualche modo riportare all'attenzione certi come dire, il valore di scoparsi solo quello, bravi, il messaggio vuole essere contro la violenza sulle donne, contro la discriminazione, tutto questo. Ne esci con le ossa rotte per questo tipo di messaggio, no? Poi sicuro, ma l'ha detto lui? Secondo me no. Beh, se tu hai seguito tutto l'incipit sia del programma teatrale prima che dell'introduzione, ma quello è aggiunto, il problema è che Celentano vuole lanciare dei messaggi ecologisti, etici, eccetera, ma lo vuole fare mettendo al centro del, diciamo, del mondo migliore se stesso. No, se stesso. La turbofrenia è una conseguenza del fatto che lui è talmente figo che la turbofrenia non può che sta con lui. Sì. Lui si è veramente si è messo ad un livello di narcisismo scellerato. E lo si è visto anche da quei pochi momenti di apparizione a teatro. Cioè, lui si sente talmente meglio, sono meglio io, che non c'ha neanche bisogno di dover apparire. Cioè, lui deve usare questo atteggiamento da, come dire, da star maledetta. Da... Sono 40 minuti che stiamo parlando di questa cosa. Sentiamo un attimo. 81 anni, scusate, Michela, ecco, Michela, vai, Michela, canta. No, vai, canta, Michela. Questa è la storia. Basta, non lo dico più. Allora, stiamo a parlare di un vecchio di 81 anni, quanti anni c'ha? Che praticamente campa sul il mito di se stesso. Ma stiamo parlando di William Shatner. Ah, no, bello, se l'ha bevuto, quindi ormai. Ma pensa che ce l'hanno un po' tutti gli ottantenni. Sa pure a me che questi. Pure, no, lui c'ha i soldi. Pizzi. Tu padre com'è che campa? Ma mi pare. Però vivendo nel mito di se stesso. Esatto. Ah, ok, perfetto. Vedi, è così. Aggrappato a... Ragazzi, ci saluta il neo arrivato Leo Vargion. Allora, ciao Leo. Guardi, hai finito di. Ciao Leo. Sì, da quel dico. Hai finito, ok. Quindi non devi ricominciare. No, allora, se volete ricomincio. Sentiamo invece il da Milano. Milano? Sì, buonasera. Allora, dici anche la tua, che l'hai visto, insomma. Canta tu. No, no, io canto le mie gesta eroiche. Allora, gesta tu, eroiche. No, allora, io avevo fatto l'aspetto, diciamo, artistico. Ok, che vai. Tutto sommato mi è piaciuto. Qualche pezzo qua e là, sì, è vero, tipo, a un certo punto nel concerto c'è l'animazione di una delle guardie che si tira sugli occhiali, c'ha la mano dal fianco, la tira su alla testa prima. Poi la rifà da capo e si toglie sugli occhiali. E poi fa la stessa animazione solo con la camera più lontana. Quindi sì, c'è un po' di riciclo. Che... Però... Peggio che nei cartoni animati giapponesi degli sì, anni però 70. C'è questo riciclo brutto, cioè proprio palese. Brutto. E perché sennò duravano 37 minuti le puntate. Sì, forse anche di meno. Che cazzo è? A livello di storia, allora, io la vivo in modo diverso da voi. Cioè, per voi Celentano è, diciamo, anche parte della vostra infanzia. Ma noi lo esageriamo, No, non andiamo a dire. Capito, dai, cioè, giovane, forse era l'infanzia di mio padre, ma non è. Vabbè, ho capito, ma comunque sono canzoni non della mia generazione. Ma noi molto vicino, allora, a voi. A parte il ragazzo della via Brooke, che film, ha un certo, cioè... tipo di valore anche in qualche modo, diciamo, affettivo, politico e affettivo. Noi lo ricordiamo più per alcuni film degli anni Ottanta, ma lì finisce. Sì, comunque intendevo dire che, cioè, per me è un uomo completamente da altri tempi, canzoni di generazioni passate. Voi siete già più vicini, in questo volevo dire. Però mortacci tua. Vabbè, ma poi insiste. Sì. Qua sono schiaffi, pederietti, sono schiaffi. Quando c'era lui, voi perché stai a Milano, allora vabbè, allora... No, vabbè, per cui, diciamo, io lo guardo un po' più distaccato. Vabbè, ok, te ne frega più. E devo tanto, dire, insomma, che, la serie non sarebbe neanche così male, a parte qualche roba che ho da dire. Però c'è proprio questo personaggio che è proprio fatto troppo per esaltare, appunto, Celentano. Cioè, proprio senza alcun motivo logico per fare tutte queste gesta eroiche. Autodivinazione. Esatto, sì, spontanea. Certo, cioè... Paradossalmente la cosa più insignificante dello show è anche la cosa più fastidiosa, nel senso che mette in luce, cioè, scusate, mette in ombra dei difetti, anche dei pregi più importanti, però, cioè, proprio una cosa un po' fastidiosa. Vabbè, comunque io voglio dire che lo guardo con distacco pure io, che infatti non lo guardavo proprio, cioè, non frega un cazzo proprio. Gusella, intanto ti volevo ricordare che alle 21:50 è il Freccia Rozza per Roma, ricordati. Ah, ok, siete sbrigati, perché dopo ti rivogliamo, okay. Esatto, quindi, va bene. Quindi ti salutiamo, ci vediamo. Quindi sì, ci vediamo dopo. Tra ciao, poco, ciao. Ok, va bene. Invece, vabbè, chiudiamo con l'opinione di Walter, insomma, cioè il giudizio. Guarda, io che abbiamo più o meno capito, insomma. Sì, io vorrei premiare il coraggio, perché cavolo, la prima volta che la televisione italiana tenta una cosa del genere, ma poi e come al solito per i motivi sbagliati, insomma. Ma poi l'esecuzione non c'ha nessun senso, cioè non si riesce a trovare un senso a niente. Non si riesce a capire perché poi Canale 5 abbia scelto di mandare in prima serata, secondo me, un programma così narcisistico, diciamo che non si capisce neanche a quale target di riferimento possa parlare, perché secondo me il target ideale, che è quello di una certa età, non è attratto comunque dal format, che è il cartone animato. Quelli invece più giovani sicuramente, beati loro, se ne sono tenuti alla larga. Quindi ti ripeto, poteva essere una grande occasione, completamente fallita nella realizzazione pratica. Leo ci pone il quesito che non ci andremo a dormire stanotte. No, infatti, immagino. Allora, io mi chiedo una cosa. Adrian è attualmente il meme più forte in Italia. Come cazzo è possibile che abbia fatto solo il 6,9 di share? o qualcuno su internet ne parla. No, in realtà la prima serata ha fatto molto più del 6%, perché non ha vinto la serata, perché Rai 1 ha fatto qualcosa di più, però comunque mi pare che un 23-24% di share l'ha fatto, quindi diciamo che capirai una lotta fra titani, come dire, Adriano contro Don Matteo, sarebbe da vedere. Molti spettatori una possibilità lunedì gliel'hanno data. Anche perché la pubblicità ha sfrantumato così tanti coglioni, scusatemi, sì, faccio, è tutto di Mediaset ormai, quindi però ecco, ripeto, io un giorno vorrei avere la fortuna di poter parlare con i vertici di Canale 5 e chiedergli una domanda di una sola parola: perché? Perché, esatto, cui protesta? Ma guarda che pure, secondo me pure Mediaset sa sta a vedere brutta, quindi forse l'ha provata. Cioè, se la guarda e dice... Tra l'altro c'è stato un momento di grossa tensione in cui pareva che Mediaset potesse citare per danni Celentano, proprio perché non si stava come dire palesando in teatro. Cioè lui è stato pagato, quindi non puoi fare la prima donna a livello tale di dire io non vengo, vengo se mi va... cioè ha mandato a Ramengo un progetto in cui lui era il direttore, lui è il regista di tutto questo peraltro, quindi ci doveva stare. Bene, bene, bene, andiamo avanti. Invece noi, dai, abbiamo detto comunque era merda, poi continueremo magari a parlarne nelle prossime settimane. Vi annunciamo invece che oggi è stato deciso in maniera ufficiosa, quindi attenzione, non in maniera ufficiale, che probabilmente Morti di Trono di Spade tornerà. Per questa ultima straordinaria, meravigliosa stagione. C'è da fare una piccola premessa: Morti di Trono di Spade non è Morti di Bestemmie, quindi non c'è blastare su iTunes o dove cazzo mi pare, voglio volte di spa, sono due cose diverse. Lo so, però il feed è lo stesso e c'erano ragione quelli che si sono cazzati. Non c'erano tutti però quanti invece, visto e considerato, che non si dice, però mi piace sempre dire che Walter l'altra settimana ha parlato della sua esperienza con la puntata interattiva di Black Mirror. Bandersnatch. No, non è. No, è. Com'era? Blood abbracci, baci baci. È vero. Pronto? Sì, sono io, sono già arrivato. Ah, citato, grande, grande, grande. Sto freccia rozza, Piotta. Mamma mia, che sì, perché che treni che abbiamo. Con Salvini i treni arrivano in orario. Più che in orario. Ma soprattutto c'è il vagone ristorante che spacca, mi dicono. Spacca. Sì, sì. C'è la faccia rossa. Quindi noi abbiamo visto Bandersnatch là, eravamo io, Marco Gualdi, Simone Gusella con Michela al controllo, quindi cioè in realtà è Michela che, però noi abbiamo scelto di dare il controllo a Michela perché Michela nelle sue esperienze sempre per antropologia, perché di solito comunque nelle sue esperienze interattive fa morire tutti, anche quelli che il programma non prevede che muoiano, lei riesce a far morire anche quelli. Un giorno vi racconteremo il mio gameplay con Harry Rain, dove praticamente si è suicidato anche Sean di casa proprio. È arrivato anche l'Alabai che subito esorcisce. Ne parliamo dopo, l'esorciccio. Adriano ce l'ha in mano, ragazzi, che bello. No, l'Alabai con questo in francese, poi non è lui che ce l'ha in mano, ce l'ha in mano lei. Sì, esatto. No, veramente Adriano ce l'ha. Sì, vabbè, comunque. E non so in mano, ragazzi. Quindi raccontiamo la nostra opinione, diciamo, più che esperienza, perché insomma poi alla fine l'abbiamo giocato per un'oretta e mezza, in realtà ha voglia ancora, allora, per esplorarlo tutto quanto, però siamo riusciti a portarlo a termine, diciamo, in un modo né buono né cattivo, nel senso non è andato malissimo. Scusate, alla fine. Quante volte avete ricominciato? Quanti pseudo finali avete visto? Allora, noi abbiamo ricominciato 5-6 volte. Ma poco. In realtà per un solo finale, cioè col titolo di coda, uno solo. Sì. Abbiamo visto solo una volta, perché poi avremmo potuto esplorarla. Però siccome ci abbiamo messo comunque tanto, già dopo che stai lì, un'ora e mezza. Lo proveremo per continuare ad esplorarlo. Finiamo un attimo prima di dire questa cosa, che è stata carina. Però poi alla fine, fatta questa esperienza che continueremo poi ad esplorarlo, ci siamo fatti più o meno tutti quanti un po' un'idea. Poi magari interviene anche Walter, che l'altra settimana comunque ha espresso la sua opinione. Marco, secondo te come esperienza? Ti è piaciuta o non ti è piaciuta? Ah, beh, è stato carino, divertente, per carità, cioè, bello. Comunque cosa ci hai visto? Cosa la morte. La morte. Grazie a Michela. Grazie a Michela abbiamo visto la morte ovunque. Invece, è stato bello, insomma. C'era gente che si è buttato di sotto anche. Michele ha fatto buttare per un'altra volta qualcuno di sotto dal balcone, è proprio la sua storia. Cioè, far buttare... C'ho avuto un flashback in quel momento. La vogliono assumere a telefono amico, Michele. No, la Quantic Dream la cercano, perché venga, venga, perché lei prevede morti anche dove non ci sono. Magari mi chiamassero per lavorare. La voglia, ma ci vengo pure io. La tua vita ultraterrena non sarà quella di Angelo Consolatore, sicuramente. No, perché... sicuramente no, non ti buttare a cazzo. Ops. A lei il dottor Cavorchian gli fa, gli spiccia casa. Però vabbè. No, comunque è una bella interazione. Sarebbe bello rigiocarci e vedere quante altre possibilità. Che pare più di 5 ore. Ci sono fatti diverse idee su che cosa significa tutto. Sì. Sì, vabbè, di la tua, cioè, no, se la vuoi. Vabbè, però senza spoilerare a chi non l'ho ancora provato, nel senso che ci sono dei significati un po' reconditi, però beh, è bello perché comunque fai un gioco in cui tu giochi con qualcuno che sta giocando, cioè proprio tutta una specie, un Inception praticamente. Il fatto sì, è che viene anche alcuni citato proprio diciamo il meccanismo, ma viene anche citato, spieghiamo proprio il primissimo minuto, cioè questo ragazzino che sta sviluppando un videogioco per cos'è, il Commodore, credo. No, per lo Spectrum. Ah, ok. E prende questo gioco alla storia che si adatta alle tue scelte. E vabbè, fine, non diciamo altro. Giochi una storia che si adatta alle tue scelte. No, ma infatti sì, c'è sì. Il rapporto tra storia e rottura della quarta parete è il fondamento di una puntata che, ecco, forse uno può apprezzare o non apprezzare. A me è piaciuto tantissimo. Però, per esempio, Walter, tu l'altra settimana hai detto, dice, Black Mirror non c'entra un cazzo. Secondo me è molto focalizzato proprio nel concetto di Black Mirror, perché proprio diciamo che questo anacronismo, questo mettere il controllo di una persona che è sotto controllo di una persona che lo sta guardando tramite una piattaforma di intrattenimento, roba del genere, crea questa specie di sincronia che alla fine è complicato anche da leggere come sovrastruttura per tanti. Però io l'ho trovato proprio, è bella sta rottura costante della quarta parete, questo rapporto tra te e il personaggio, che alla fine il personaggio si rende anche conto di te, sì, e sì, quando tu gli dici guarda che io ti sto guardando in streaming su Netflix, lì è proprio l'apoteosi. Però ragazzi, io vi dico che sì, in effetti sì, quello che ho trovato un pochino limitante è che se tu mi devi dare un po' come, che poi questo si rifà anche alla trama originale del gioco che stanno sviluppando nella trama, no? Cioè, se tu mi devi dare l'illusione di libertà, in qualche modo questa illusione poi me la devi portare a termine. Io ho notato che per quanto scegliessi, per quanto facessi, e vi assicuro che di finali diversi ne ho visti molti più di voi, perché poi nei giorni successivi sono andato avanti, non ci sono molte libertà reali, nel senso che per come la giri e la rivolti la trama, alla fine succede sempre qualcosa di similare, in modalità un po' diverse, con sfumature diverse, però non puoi mai far uscire comunque sia la trama da dei binari che sono stati stabiliti. Perché è una trama. Però avrei voluto un po' più di libertà. Cioè, se no, tu parli di un ragazzino che programma un gioco sullo Spectrum, non può finire, no. Che è una ragazzina che sta sulle colline. Però c'è anche l'ultraviolenza. C'è anche l'ultraviolenza. Non può finire in via Gluck. Non posso dirlo in maniera troppo esplicita per non spoilerare ulteriormente, però diciamo che nel perimetro della trama tante scelte che sarebbero, diciamo, tante soluzioni che avrebbero dovuto portare a finali diversi, in realtà poi riportano comunque, come giri sempre ad un perché finale, perché non c'è libero arbitrio in realtà. Dice che non ma c'è perché libero comunque arbitrio. Se non c'è questa interpretazione estremamente distopica, non è Black Mirror alla fine. Ed è di Black Mirror a questo, c'è questa distopicità inversa. Cioè, ma proprio perché non c'hai l'opportunità di uscire da questo meccanismo che finisce per essere comunque incastrato nello stesso universo dove lui alla fine è stato buttato dentro. Cioè, alla comunque, fine, per carità, perché io ci trovo. Cioè, nel senso, lo trovo aderente a Black Mirror come tante altre puntate che trattavano lo stesso tema, fondamentalmente, perché. Cioè, altre puntate hanno trattato il meccanismo. Qui c'è un gioco carino, nel senso di paradosso, in cui Black Mirror fondamentalmente è sempre ambientato in una forma di futuro. Questo prodotto ti dà l'idea, perché poi ovviamente non andiamo troppo nel dettaglio, però diciamo ti immerge negli anni 80. Poi Ma l'anacronismo è quello che dà più, a parte il fatto che non è vero che tutte, perché comunque le prime due puntate della primissima stagione erano, potrebbe essere benissimo, è un leggerissimo futuro, ma è un futuro quello, ma un'epoca contemporanea, quella del primo ministro, cioè è leggermente, è tutto leggermente nel futuro, no? non 50 anni, pochi anni, ma lo è. Però vabbè, al di là quelli sono dettagli, lo so, cioè, su quella nello specifico non ce leggo niente che mi fa capire che sia una cosa in un, cioè mi fa capire che quello che potrebbe succedere se continuiamo ad andare per standazzo, cioè, ah sì sì, ma poi il messaggio che Black Mirror vuole lanciare è sempre comunque, quello, cioè, stanno comunque, cercando di evitarci comunque, al di là del discorso peggiore, dell'interazione, che in effetti è un discorso che ha acceso dibattiti per decenni, insomma, sulle questioni dei film interattivi, e che secondo me è proprio un problema anche tecnico, che più di tanto, insomma, non è che poi, esatto, anzi, adesso poi sbizzarriti un po' molto di più di una volta, questo sicuramente di... Secondo me, detto veramente, quando ho veramente detto proprio bravo, no, è bello, bravo, anche perché veramente... quando poi intraprendi un vicolo cieco che ti costringe a ritornare indietro, comunque questa cosa ne tiene conto, cioè quando rivai avanti c'è qualche piccolo dettaglio che ti fa capire che in quella realtà nuova, esatto, c'è comunque traccia di quello che questo che è un elemento innovativo, per esempio, rendendo tutto quanto molto sapete più fluido, cosa? Perché sembra perché... quasi come se fosse stato fatto apposta, cioè è come se tu non avessi in realtà scelto, o se avrebbe potuto tranquillamente fare un film basandosi su quelle scelte. Ragazzi, io vi do anche un altro suggerimento per mescolare ancora di più le carte. È una modalità in cui l'abbiamo visto anche io con degli amici. Ogni 2-3 scelte passatevi il controller, in maniera tale che le scelte vengano determinate un po' alla volta da più persone diverse, quindi un po' Michela, un po' Marco, un po' Simone. Sì, ma noi ci davamo i consigli comunque. Sì, però fate sì, proprio senza neanche darsi consigli, fate in modo che ognuno di voi scelga 2-3 volte di fila e poi passi il controller a quello dopo. Ma io lo giocherò anche da solo comunque. Sì, anche, visto, sì, dopo, sì. Dopo sì, certo. Qualche... comunque... che ci sono parecchi riferimenti, molto sono... troppo nerd e non li ho colti, però ad esempio c'è questa cosa dell'Inception, c'è la cassetta Trauma Inception, sì, quindi c'è proprio quel riferimento, non è buttata là secondo me. No, ma no, penso no. Che... facciamo cross information sui programmi di runtime, perché come ci dice giustamente Leo in chat, dice Bandersnatch è una riflessione su quello che diceva Walter Vannini quando parlava sul cagare codice senza un criterio, che diventa deleterio. In una puntata in cui parlava di coding poco tempo fa, Walter Vannini diceva proprio questa cosa, e cioè che se scrivi codice senza che dietro ci sia un criterio puoi far solo danni. Perché poi se ci pensi, quello che succede durante la trama di Bandersnatch è che sto ragazzo, pur definire videogioco chiuso in cameretta, a un certo punto parte per la tangente. Io quello che ho capito è che questo qua ha preso un libro e l'ha praticamente tradotto in Basic, cioè nel senso, trasformato in gioco. Sì, sì, cioè, sì. Voglio dire, non è che ci ho visto una genialità in no, questo, libro, insomma, di un tizio abbastanza però fuori da esatto, sì, testa, sì. Diciamo. Perché comunque questa vita di questo scrittore si è ripensata. Esatto, questo anche è un altro elemento aggiuntivo, però tutta una serie di strati. Sicuramente, sinceramente sì, c'è molto. Io volevo dire che in questi meccanismi dei flashback ci ho visto un po' il finale di Donnie Darko. Cioè, ovviamente Donnie Darko c'è tutto il film, no? Di lui che schiva l'aereo che gli cade in camera. Sì. Fa tutta la sua vita. Allora poi, vabbè, qua ci sono le mille interpretazioni, entra in questo wormhole, torna indietro nel tempo, per cui alla fin fine l'aereo gli cade addosso. Però lui ha questa coscienza di questa vita alternativa, di questo futuro che non ha pienamente vissuto. Beh, diciamo che un certo tipo di ispirazione non... forse diciamo che la sensazione c'è. Sì, sì, c'è anche qualcosa di Donnie Darko. La sensazione c'è, in effetti. Cioè, praticamente questo qui fa delle cose, no? Poi per un motivo o per l'altro questa scelta non porta a un futuro, cioè vabbè, no, non può andare avanti la storia senza fare spoiler, per cui ritorna all'inizio. E poi rivediamo le stesse scelte per non dover star lì a risubire tutta la storia, fare le stesse identiche cose. Arriva al bivio a cui abbiamo scelto una cosa, però automaticamente va nell'altro. E questo ragazzo ha dentro di sé come questa sensazione di aver già fatto queste cose, no? Questi flashback, questi sì, déjà vu. Acquisisce una sorta di consapevolezza durante... Beh, questa è una cosa che ho notato pure io e che avevo... Ovviamente, vabbè, si nota. E che lo rendeva ancora più interessante, perché in effetti tu giochi con lui, ma la storia gioca con te. Sì. Perché comunque... alla fine tu, come dice anche Walter, non ce l'hai mai la sensazione di essere... Io ti sto controllando, però secondo me c'è una sovrastruttura che è la storia stessa, che in realtà sta controllando noi. Esatto. Quindi, cioè, è, secondo me non è un limite, è proprio una concezione che veramente rende artisticamente sto lavoro veramente una cosa da... E comunque la scena di Karate della psicologa è fantastica. Cioè, veramente. Sì, sì, poi dopo c'ha queste deviazioni folli che sono veramente interessanti. Insomma, quindi a noi ci è piaciuto. Se avete l'opportunità, ovviamente su Netflix. Anzi, io dico che dei primi esperimenti Netflix di interazione, forse questo è quello veramente più pensato. E se usciranno opere ancora più strutturate, però sulla base dell'esperienza fatta con questo, secondo me noi le faremo, e ci sarà sempre qualcuno che mo, quello è sicuro, tutto dal balcone, ecco. Michela Balconi, ciao. Vabbè, proprio... diciamo cose, spoileriamo tutto. E sapete, ragazzi, che così per la notizia chi se ne frega, c'è un'azienda americana, credo produttrice, se non erro, di libri game, che non è Lupo Solitario, insomma quella che conosciamo anche in Italia, un altro editore, che ha pensato di fare causa a Netflix. Dai. Perché hanno violato il loro brevetto per diciamo le trame a bivi. Vabbè, staremo a vedere, anche perché... Cioè, ma no, allora, famosa capisse... Non esistono, cioè, se tu mi vieni a dire che esiste un brevetto per le trame a bivi, allora dovresti far causa al 20% dei videogiochi. Tu considera solo quelli, ma a livello di codice, di tecnologia, di piattaforma, no, in questo senso? L'idea, l'idea della trama a bivi, ma una cazzata, ripeto, è un editore di libri che ha denunciato. Sì, no? Sì, sì, abbiamo capito, una cazzata uguale. Cioè, quello che abbiamo giocato, Life is Strange. Cioè, pure quello è bivi. Cioè... Sì, ragazzi, ma nei videogiochi questo meccanismo è usato tantissimo. Allora, Life is Strange e tutti i giochi di Quantic Dream oppure Until Dawn, più che veramente a bivi, diciamo, lì so delle scelte anche più approfondite che tu puoi fare in determinate cose. Forse i giochi più a bivi sono quelli di Telltale o i nuovi giochi che fanno parte del nuovo pacchetto di Sony che si chiama Playlink, che praticamente loro ti danno questi giochi interattivi che sono dei film interattivi. Ce n'è uno sul pianeta delle scimmie, ce n'è uno che adesso non ricordo, sempre fatto da Massive Games, dove tu praticamente tu vedi la storia e a un certo punto hai l'opportunità di scegliere tra uno, due o tre. Leo ci suggerisce che pure su Topolino c'erano le storiette. L'avventura nel castello, la prima storia bivi della storia di Topolino, credo che da qualche parte ce l'ho ancora. Penso pure io. E quindi praticamente tu in questi giochi c'hai queste due o tre scelte che puoi fare, che sono scelte tecniche, morali o pratiche, e cioè, questi giochi a bivi sono sempre esistiti, cioè sia sul carta che dal punto di vista informatico. Che tu come casa editrice devo fare pubblicità facendo queste ennesime mosse di fa causa, roba del genere, come i satanisti che vogliono far causa per l'altro motivo. Cioè, raga, qui ogni volta in America ti svegli perché c'è qualcuno e vuole far causa a qualcun altro, che poi non è nient'altro che un modo per farsi pubblicità. Perché... Beh, ricordiamo che in America i meccanismi della legge sono talmente contorti, per cui magari ci riescono pure, vado a sapere. Ma è un modo per far soldi, per finanziare il muro del Messico. Ragazzi, in America c'è chi ha vinto la causa contro McDonald's. Perché è andato al bar di McDonald's, ha preso un caffè, il caffè è bollente per definizione, questo ha detto di essersi ustionato perché loro non gli hanno detto che il caffè era bollente, ha vinto una causa. Ma cioè, io mi ricordo quella puntata di South Park in cui tutti facevano causa a tutti. Ma sì, ma se l'America e l'avvocato era lo stesso per entrambe le parti, cioè il papà di Kyle, mi sembra. Guarda, vabbè, comunque, noi ragazzi. Io e Michela intervistammo anni fa sulla questione di Chico Forti, non so se voi sapete. Sì. Praticamente intervistammo un giurista che praticamente era un espertissimo della legge americana. E che tra l'altro lui sosteneva che Chico Forti era colpevole piuttosto che tutti quelli che sostengono, insomma, che hanno sempre professato l'innocenza di sto ragazzo che era stato comunque messo in mezzo a un grosso complottone. E lui dice che in generale tra questioni Stato contro persone o persone contro persone, solo il 10% delle cause in America vanno veramente a fine in tribunale. Perché è proprio il sistema giudiziario americano che è fatto per trovare accordi extraprocessuali. Esatto, la legge americana ti permette l'accordo extraprocessuale, ma non ti permette, salvo per determinati incentiva tipi fortemente, certo, perché per non avere rotture di veramente solo il 10% delle cose vanno a fine in tribunale e un processo sì dura 2 settimane. Però, cioè, però ci sono alcuni tipi di reato che ovviamente non possono essere risolti extragiudizialmente. L'omicidio, per esempio. No, io te sto a parlare delle cause, cioè, delle cause tra comunque le cause civili, le cause civili, cioè, non è come da noi che qualsiasi cosa finisce in tribunale. In America solo il 10% delle cose finiscono in tribunale. Beh, noi abbiamo istituito il giudice di pace. Comunque, però stiamo divagando tantissimo. Io, se voi siete d'accordo, vorrei andare al prossimo argomento. Ma io vorrei fare una domanda invece, vai, prima di passare così totalmente a caso, la vostra puntata di Black Mirror preferita? Beh, io devo considerare, non ho visto tuttissime le stagioni. A me manca stagioni, l'ultima stagione. A me forse mi manca una stagione e mezza. Michela le deve vedere. La io mia è senza dubbiamente quella, non mi, forse è lo speciale di Natale dove c'è la tizia nell'ovetto bianco. Non l'abbiamo, no, vista. Chi l'ha vista capisce. È quella in cui c'è. Ah no, è quella in cui è lunghissima, John Hamm è abbastanza nella baita mezz'ora nera. Esatto, i due che parlano nella casetta. Per me quella è irraggiungibile. Per me è la prima perché è quella che veramente mi ha sconvolto di più. Quella del politico? Sì, sì, del politico inglese, perché del primo ministro inglese. Perché a me Netflix l'ha fatti vedere dalla terza stagione alla prima. Lo so, perché le licenze sono un po' strane. Comunque, la prima, quella del politico, perché non solo è stata la prima che mi ha fatto entrare nel trip di Black Mirror, ma perché in realtà nell'assurdità è quella più realistica, cioè quella veramente più vicina a noi, quella che ti dice questa cosa può succedere ed è veramente più sconvolgente. Le altre piano piano si allontanano dalla nostra realtà, pur comunicandoci un messaggio che sia comunque compatibile col nostro mondo, però insomma porta le cose un po' più all'estremo, no? Come la puntata di quelli che pedalano per dare energia a quelli che vivono che vivono bene, o quella... Tra l'altro è anche una puntata di Rick e Morty. Praticamente Rick ha costruito questa batteria in cui c'è un mini universo e le persone tipo saltano su degli step, su dei gradini per alimentare la sua batteria. Sì, vabbè, poi c'è tutta una roba spettacolare. Insomma, questa invece vabbè. Marco, non l'ho vista soltanto una. Noi ne abbiamo viste due, io e Marco. Quale hai visto, Marco? Quella dici quella. Quella dei like e basta. Il film di paura, qual è? Ah, quella la tipa, quella della gata. Quella della gata, di quello che va. Quella che devi votare le persone. No, abbiamo visto quello di votare le persone. E poi c'era quella lì che andava nella società che faceva i film di paura. Ah sì, il gioco realtà aumentata. Beh, anche quello è male. C'eri pure tu? No, non ho visto. Sì, mi sa che c'eri pure, vabbè, non so, ricordo. Sì, sì, anche quella era carina. Però vabbè, per me rimane. Per te invece, Walter? Guarda, più di uno per motivi diversi. Sicuramente mi è piaciuto molto San Giunipero, quello che parla del, poi fondamentalmente di testamento biologico, diciamo così. Mi è piaciuta molto la puntata in cui la ragazza che perde il compagno si fa mandare il clone. Quello del clone, sì. E mi è piaciuta anche quella in cui la società è basata sui like che ricevi, il tuo status sociale determinato dai quello, like. È quello che diceva Marco. Che mi sfugge sempre, mi sfuggono, non riesco a riagganciare i titoli. No, cioè, io i titoli non ne so manco uno. Cioè, e poi c'è anche quella che... quella mi piace perché ovviamente ci richiama Star Trek, che si chiama, sto cercando nei titoli, che fondamentalmente è questa sorta di inizio parodico di Star Trek, in cui in realtà poi si parla anche lì di uno sviluppatore di videogiochi. Sì, un gioco online, vabbè, la puntata è una merda però, cioè... Si chiama Giochi Pericolosi, credo. Cioè, a me mi è piaciuta perché sì, è Star Trekiana, però cioè, voglio dire, veramente il finale della storia è... Ma io ho sentito che l'ultima stagione in generale non è all'altezza delle vecchie, però vabbè. Beh, allora Black Mirror, scusate, secondo me... Sentito dire, è Sesca Lister, quella di Star Trek. Sì. E secondo me quando sono stati gli americani, un po' come Doctor Who, quando sono stati gli americani le cose sono cambiate. Beh, ricordiamoci che la prima stagione di Black Mirror... erano solo 3 puntate, vabbè. Erano, o meglio, le prime 2 stagioni erano prodotte diciamo dalla TV inglese, sì, BBC. E il BBC, che poi ha mollato il progetto e lo ha preso in carico come first party Netflix, e da quel momento, quindi praticamente dalla terza stagione in poi, viene trasmesso all'unisono in tutto il mondo, perché viene trasmesso, diventa un original Netflix. Le prime due stagioni invece sono molto molto più britanniche, proprio perché... Sì, sì, ma erano anche belle comunque, a me piacevano comunque. Va bene, ok. Tra l'altro anche Bandersnatch, per curiosità, lo puntualizziamo, ambientato non negli Stati Uniti, negli anni 80, ma a Londra. Sì, sì. Ma c'ha un senso sta cosa, certo. Perché poi è anche un po' lì che è nato il tipo di quel tipo di videogioco su quel tipo di computer. Beh, chiaramente... Anche la Commodore credo che nasca in UK, così come la Spectrum, eccetera, no? No, più che altro lo Spectrum era proprio inglese, cioè, sì, quindi sì, era il signor Sinclair. Quindi era il computer in assoluto più venduto in Inghilterra, e quindi vabbè, comunque. Detto questo, invece... Dicevo, sì, volevo saltare al prossimo argomento, perché noi abbiamo ancora due belle cosone da blastare qui, Mica ne avevamo una sola, perché abbiamo ancora l'ennesima, come dire, occasione persa per stare zitto di un senatore del Movimento 5 Stelle. E parliamo di Elio Ranutti, già presidente di ASBEF. Io mi ero sempre chiesto, poi, quando in questi giorni si è parlato di nuovo di lui, mi ero sempre chiesto come avesse fatto un personaggio del genere a diventare presidente di ASBEF. Volete sapere come ha fatto? L'ha fondata lui. Mi pare giusto, è quello che è. Io pure quando facevo le squadre di calcetto, le fondavo io e facevo il presidente. Ok, fatto sta che insomma... Presidente operaio facevi tu. Ha tirato fuori per l'ennesima volta questo falso storico che gira da più di un secolo del priorato di Sion, dei saggi di Sion, come si chiamavano, sì. Loro, che praticamente è un trattato antisemita da morì, lo ha citato linkando praticamente un blog di dubbia origine su un post. Quando poi l'hanno blastato per dirgli guarda che è una cosa antisemita, lui si è provato a difendere dicendo ma il fatto che io abbia condiviso un link non vuol dire che ne condivido il contenuto. Quindi che vuol dire? Che non sai neanche cosa hai condiviso, a parte che lo condividi e come, perché sei proprio il tipo no, di no, perché l'ha sempre detto, tra l'altro. Esatto, cioè non è che sappiamo da ieri tu chi fosse. Ma se uno dice altro... una cosa non è che la vuole dire. Ma poi che altro il discorso è stato, ma tu lo sai che sono più di 100 anni che è stata sconfessata sta cosa, che è storicamente dimostrato che è una stronzata. Vabbè ragazzi, abbiamo Sibilla che è ancora convinto che l'uomo sulla luna non ci sia andato ed è anche lui senatore. La cosa grave è che... Pure quelli delle coliche sono convinti. Ma oggi è uscito un video. Oggi interrompi e basta, sì. Infatti. Sì, vabbè, mi piace interrompere a me. Scusa, ma ragazzi, canta Michela, canta. Canto. Questa è la storia di uno di noi. Basta. Basta, ok. Scusa. È uno dei video d'alta gabbia, allora amici in chat, il background. Il background, è partito il background. È uscito. Lo devo fare più lungo sto background. Le coliche che prende fa riassunto di tutto quello che sto, i complottisti, di tutto quello che, cioè, scie chimiche, terra piatta, Michael Jackson che è ancora vivo, che gioca Michael a carte Jackson con è vivo. Assolutamente vivo. Cioè, veramente cioè, gioca a carte con Elvis Presley al baretto sotto casa mia. Niente, le coliche... Bravi, li autoriamo proprio, cioè, non c'è niente da fare. Grazie a Dio. Su sgaggi proprio. Su sgaggi. Sì, ma forte. Come parli? Infatti sì, ma parla come Magni. No, no, nel caso di Musella no. No, ma che stai a scherzare? Ma lascia perdere. Lui parla mentre mangia. Dicevamo, quindi insomma, Ranutti non ha perso l'occasione per sta zitto e per mostrare chi è ancora una volta. La cosa grave è che il Movimento 5 Stelle si è limitato, diciamo, dalle parole dello stesso Di Maio, a prendere le distanze. Ah beh, ma mica... Perché? Come mai una persona, diciamo, un parlamentare di profilo, di pregio, come poteva essere, che ne so, un De Falco a caso, lo cacci? E uno che dice, senza colpe, se non quella di aver agito di propria testa e non per quella allineamento. Quella è una colpa gravissima. È quello e poi uno, è che, certo. Uno che fa discorsi antisemiti di questo tipo, non lo cacci. Perché non fa discorsi? Forse solo perché vota quello che deve votare quando sta in Parlamento. Esatto, questo mo cacci, diceva uno. Ma poi, diciamo che... Di Maio e Salvini hanno praticamente distrutto 50 anni di vita diplomatica di questo paese nelle relazioni con la Germania e con la Francia, no, pure con la Germania, quella. Ma in realtà con tutto il mondo, cioè, secondo me, tra un po' pure la Svizzera smette di essere neutrale per mandarci a fare poi noi. Che poi io in realtà, cioè, nel senso, non neanche racconterei queste storie perché oramai la gente le sa, perché più o meno insomma le sentite. Io quello che voglio capire, Cioè, una volta io mi sono reso conto di questa cosa. Una volta il politico raccontava le cazzate alla gente, no? Perché andava lì e faceva promesse, diceva bugie, no? Un po' così, eh. Questi sono riusciti a costruire un rapporto talmente fideistico, no? Con la propria base elettorale, che è fatta di pecore e di bui, perché insomma... I bui, che praticamente si raccontano le cazzate per loro stessi. Cioè, non si preoccupano neanche più di Dio... che ne so, vabbè, prenderemo provvedimenti, oppure abbiamo sbagliato, oppure c'è stato un errore, troviamo una soluzione mediale. No, loro continuano imperterriti, si raccontano le cazzate, cioè dicono a se stessi, ossia ai bui che loro sono, le cazzate si raccontano da soli, e poi sono contenti e vanno su Facebook, perché noi abbiamo degli esempi, no? Vanno su Facebook e dicono: ah, ma questo è perché il sistema non vuole che, allora, visto quante gliene abbiamo dette, ah, finalmente uno con le palle. Ma il sistema siete voi, che vuol dire che non... Cioè... Ma uno con le palle che significa? Cioè, se io vado a dire l'immigrazione la crei tu, Francia, perché con la moneta coloniale praticamente gli stai a rubare tutto, che poi precisiamo una cosa, non è che di principio quello che ha detto Di Maio è veramente l'ha detto Di Battista, però vabbè, Di Maio ha fatto solo l'endorsement. Esatto, cioè nel senso lui ha detto... va bene, giusto. Comunque, non è che quello che è stato detto è di per sé una cazzata, è il modo in cui tu lo dici. Perché tu devi comprendere, anzi loro dovrebbero comprendere, ma oramai questa è la situazione e secondo me è totalmente irreversibile, che tu non è che puoi andare in televisione a dire quello che cazzo te pare. C'hai un problema con un paese perché pensi che stia facendo una politica sbagliata, dato che sei il presidente del consiglio o amico del presidente del consiglio o il vicepresidente del cazzo del consiglio, fai, convochi l'ambasciatore francese e gli dici: secondo noi sta cosa, insomma, dovremmo cominciare a discutere. No, invece questi che fanno? Questi fanno casino. Ah, questi sfruttano i negri e che poi dopo aumentano l'immigrazione. E tutti: oh, bravo, bravo. Questi giustamente si incazzano perché dicono: oh, Ciccio Bello, ma chi te sei fumato stamattina? Che io vengo con i Concorde, perché giustamente loro hanno i Concorde, quelli esplodono da soli, ci buttano addosso, no? Tanto non sanno più che fare, sono esatto, tutti quanti negli anni. Stanno là fermi, non possono più farci niente, insomma. Su questo quindi... siamo tutti concordi. Allora poi che succede? Che erano due ore che dicevi... Bravo. È la maledizione di quello lì che lanciava le cose. Che succede? Che siccome che Salvini... Che lanciava le che tu possa diventare sordo, muto, ma muto non sempre. Esatto, un po'. Un po', no, proprio. Perché di tanto deve tornare la voce in quei momenti... Alex Drastico. Spari le cazzate in mani. Comunque, diceva, mentre Salvini a un certo punto, che è la prima volta che non aveva detto niente, che era distratto, stava a bocca piena, visto che ha visto che questa cosa funzionava, allora pure lui, perché lui se non vede che non funziona, cioè non fa finta di niente, frega un cazzo. Voi dovete capire che a Salvini non gli frega un cazzo di niente, cioè proprio lui la cosa che gli frega è che funzionano, sciacalla sulle questioni così, insomma. E quindi a un certo punto ma è giusto quello che ha detto. Quindi noi praticamente abbiamo fatto incazzare i francesi e nel mentre contemporaneamente anche i tedeschi, che si sono ritirati o si stanno ritirando, vorrebbero ritirarsi dal progetto, come si chiama? Sofia, esatto. per la protezione perché, dei mari. Ma non è che si ritirano perché dice no, non ci sta bene. No, noi se ritiriamo perché ci stanno sti stronzi. Esatto. Proprio sti stronzi, hanno detto. Cioè, proprio, tradotto chiaramente nella lingua giusta è Stronzen. Esatto, così. Stronzen, perché è plurale. Stronzen. Esatto. Cagami in petto. Insomma, quindi questa è la situazione. Però se tu gli vai a dire una cosa del genere, vai a scrivere su Facebook, arrivano e ti dicono: tu non chi ti paga? Perché qui ne cri, perché voi sapete che noi qui in questa zona, nelle nostre parti, proprio recentemente, anzi oggi o ieri, stanotte, ieri hanno preso e hanno sbaraccato praticamente tutto il centro d'accoglienza per i rifugiati politici. Sì, perché noi spieghiamo che siamo a pochi chilometri dal CARA di Castelnuovo di Porto. Esatto. Castelnuovo di Porto, infatti. Ma un'operazione del genere che rientra secondo loro nel nuovo piano di sicurezza, che ricordate creerà grossi problemi con l'integrazione, perché oggi noi se siamo messi in testa e avevamo convinto tutti gli italiani che il problema sono i necri. Cioè non so più la mafia, il lavoro che manca, il lavoro che manca, la corruzione, il lavoro nero, i politici che guadagnano troppo. Il problema sono i necri, capisci? Quindi noi oggi andiamo a fare una sbaraccata di persone che si stavano integrando nelle scuole, si stavano integrando nei posti di lavoro, si stavano integrando in determinate altre situazioni, perché solo per fare la scena come faceva Berlusconi, che è andato a Lampedusa e il giorno prima avevano ammazzato tutti, così faceva, vedi, è arrivato Berlusconi e non ci stanno più i necri. Pizzi, guardi, stia attento, quando lei si fomenta un po' le viene l'accento di Prima Valle Alta. Lo so, però è una cosa proprio che non si sopporta sta cosa, e che noi stiamo vivendo. Noi siamo molto dispiaciuti anche perché quei ragazzi che comunque... C'è stata una bella protesta, poi bisogna dire che, che e molta gente se li sono portati a casa i necri, capito? Forse facendo anche una cosa che forse manco si potrebbe fare, probabilmente. Sì. Pure il sindaco si è portato pure a casa, sì, la somala, però il sindaco, mica scemo il sindaco. Ragazzi, poi, scusate, sapete che c'è anche un paradosso ulteriore in tutto questo, lo dicevamo nel briefing prepuntata, cioè il fatto che oltre a tutto questo, poi Salvini si vantava del fatto che chiudendo questo centro e spostando queste persone in altri centri avremmo risparmiato, mi pare, 3-4 milioni di euro all'anno. Così, poi cifre buttate a caso, bisogna finanziare il reddito di cittadinanza. Ragazzi, intanto, oltre al fatto che persone sono state di fatto deportate in maniera barbara, rovescio della medaglia, nel frattempo, altro problemuccio non da poco per il contesto sociale in cui questo cara era immerso, 150 posti di lavoro zompati dalla sera alla mattina. Ma certo, perché era gente che lavorava chi necri, quindi, capito, cioè, non devono andare via. Erano sporchi. Esatto, c'erano la negrezza pure loro un po'. Comunque sono 150 persone che da domani peseranno sul welfare, in un modo o in un altro. C'hanno il reddito di cittadinanza, tutto a posto. Ragazzi, i 5 Stelle ieri festeggiavano il reddito di cittadinanza, l'altro ieri, vi ricordo che non è ancora stato ratificato, la ragioneria dello Stato non ha ancora finito i conti, non sanno ancora dove prendere risorse e si sulla prenderà, gazzetta ufficiale di questo reddito di cittadinanza ancora non c'è traccia, quindi si festeggia una cosa che oggi non esiste. Adesso verranno assunti migliaia di navigators. Ma infatti è quello il segreto. Attenzione, che ci hanno, ieri ho sentito con le mie orecchie proprio una del 5 Stelle, una deputata, che diceva: ragazzi, ma cosa dite, mica prendiamo gli sciacquacani del cazzo, noi prendiamo le migliori menti disoccupate, ovviamente, per così gli diamo lavoro, prendiamo le migliori menti sul mercato per far trovare lavoro agli altri. No, guardi, non hai capito com'è funzionerà. Salve, sono disoccupato, voglio il reddito di cittadinanza. Sì, guardi, abbiamo un lavoro per lei, deve fare il navigator. E questo per i primi 5.000, dopodiché. Ma io mi domando, ma se sono così bravi, sono così menti eccelse, ma perché non hanno trovato solo per loro il lavoro? Cioè, il sistema è sistema contro di loro, è tutto un complotto. Ma se poi la difficoltà, se il lavoro c'è, la difficoltà è farlo trovare, no? Ma perché dovete fare tutto sto coso del reddito cittadinanza? Trovate il lavoro e basta, ma ragazzi, cioè, tipo fate lavorare la gente dei centri degli ragazzi, impiego. C'è una metafora che dice, no, che secondo me poi possiamo portare anche al nostro oggi italiano, che dice: a una persona che muore di fame tu non gli devi comprare un pesce, gli devi insegnare a pescare. È un po' quello che dice Salvini. Salvini dice una cosa diversa. Però, Salvini dice che se un uomo muore di fame, dagli una selciata dietro la nuca, così smette di soffrire. E smette di soffrire. No, però il concetto è: in Italia, aiutalo a casa sua. In Italia non devi dare un reddito a chi non ce l'ha, un reddito sociale a chi non ce l'ha, devi dare un lavoro a chi non ce l'ha. Perché è giusto che chi vuole lavorare abbia l'opportunità di farlo, ed è anche giusto che chi non vuole lavorare non pesi a buffo. Adesso è ora che la fai finita, perché io voglio sapere chi ti paga. Vodafone, non chi lo sai, Vodafone. Chi ti paga, Walter? È chiaro che oramai chi ti paga. Mi paga Vodafone perché così chi parlo ti caga, male di ti caga. No, ma comunque, ragazzi, il paradosso, o meglio, la cartina tornasole di quanto sono incoerenti quelli del Movimento 5 Stelle in questi frangenti, ce l'ha raccontata Sibilla, il senatore complottista per antonomasia. Secondo me, ragazzi, vi do un suggerimento: se non sapete di che parlo, venerdì sera guardate sulla 7 Propaganda Live, perché sono sicuro che Diego Zoro ci passerà una bella mezz'ora a parlare di questo. Cosa è successo? Che Spavaldo e Gradasso e Spocchioso, Sibilla su Facebook ha cominciato a criticare chi criticava Lino Banfi all'UNESCO, dicendo state sempre a criticare, non vi va bene mai nulla, allora fate un sondaggio se avete il coraggio, anzi questo sondaggio lo faccio io, e lo ha fatto: preferite Renzi Presidente del Consiglio, che sapete già come va a finire, o preferite Lino Banfi all'UNESCO? Io avrei scritto Renzi. 14.000 voti, 85% dei voti per Renzi. Al che cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha cancellato il sondaggio e ha accusato anche la gente di essere dei rosiconi. Chi vi pacca voi? Che esatto, voi del PD siete riusciti a, tipo, a sabotare anche questo. Solo il PD vince solo così. Esatto. Ragazzi, eppure c'è, non certo, vabbè, lasciamo perché è meglio star zitti, perché a parlare gli fai solo un favore a questo. Ragazzi, vogliamo... io posso fare un invito a quelle quattro persone che c'è, che... perché io mi sono fatto un'idea, poi qui chiudo subito perché sennò poi... mi sono fatto un'idea che oramai avete visto, insomma, che chi va a votare in un paese come l'Italia, che fino a 15 anni fa, 20 anni fa, votava l'87% delle persone, oggi va a votare il 45-50% delle persone. Il che significa che quel 40% delle persone, che se suddividono poi queste fette, c'è una buona percentuale di quelle mucche che hanno sempre votato da mucche. Il problema sono quelli che non vanno più a votare, e quindi se voi conoscete gente che non va più a votare, menategli, raccontategli la situazione come sta, invitate, come posso dire, fare gioco sulla loro coscienza, spiegategli che è ora di riprendersi in mano sto paese, perché così è veramente un gran casino, ragazzi. Basterebbe fare una legge in cui alle tornate elettorali per le politiche ci sia il quorum. Perché la cosa grave è che oggi il risultato elettorale vale anche se votano il 10% degli aventi diritto. E questa è una cosa... è una cosa agghiacciante. Drammatica. Poi vabbè, l'Italia è pure quel paese in cui si libera un seggio in Sardegna. Tra l'altro il PD in quel caso ha anche avuto un risultato elettorale positivo, perché un ex Movimento 5 Stelle si è dimesso e quindi ha lasciato il seggio vacante. E questo seggio è stato rimesso, diciamo così, in elezione, e ha vinto il PD. Però al di là di questo, che ci interessa relativamente, quello che dico: fra due mesi ci sono elezioni europee, non potevi accorpare questa votazione, che tra l'altro solo in Sardegna, per un solo seggio, a quella tornata elettorale, risparmiare svariati milioni di euro che invece hai speso per organizzare un'elezione? No, figurati, in Italia queste cose logiche e sensate non si fanno. Ho capito, però dai, stiamo provando. Però risparmiamo 3 milioni di euro sul CARA di Castelnuovo dei Porto. Questa elezione in Sardegna sarà costata 30 di milioni, però vabbè, lasciamo perdere questo dettaglio. Io chiudo con una chiosa, io faccio sempre questa battuta e mi dico così: ognuno sa a chi è rivolta, dico sempre, se fanno la gara per chi è più coglione, tu arrivi secondo, e lo sai perché? Perché sei troppo coglione. Mamma mia, oh, questa mi ha fatto venire i brividi. Questo, vogliamo parlare dell'argomento più bello della serata? Mick finalmente drop. Possiamo ricominciare a parlare di quell'argomento lì. Ma come, sono le 10:30. Sono le 10:30. È tardissimo. Allora di Lele Mora al ma parco. No, noi sappiamo che c'è quella fetta del pubblico che parte quando mettiamo questa sigaretta qui. Va bene, fermi tutti e zitti tutti buoni. Ed è ricominciato finalmente dopo un anno di attesa fremente, bello, e con tanta bello. Passione, tanto amore che noi abbiamo rispetto a questa cosa qui, è ricominciata Star Trek Discovery. Colpo grosso? No. Anche se. Vabbè. E è ricominciato Discovery, ossia insomma la nuova serie di Star Trek di cui adesso parleremo, ma prima di parlarne Michela voleva dire qualcosa. Aspetta, al 9K che saluto con la faccina incazzata in chat, che avete da dire su Discovery? Tranquillo, ne parliamo bene, tranquillo. Bene fino per quanto si può, quando poi finisce la sigla e dobbiamo dire la verità, gli adepti di J.J. Abrams di mezzo, però diciamo ne parliamo da appassionati, ecco, esatto, può stare tranquillo. Esatto. Allora io volevo salutare tutti gli ascoltatori, grazie perché mi sopportate e mi supportate, Basta, prendete via, via, vada via. Vi volevo salutare con una canzone perché ormai... C'è la sabbietta del gatto che va pulita, Mercedes. Vada, vada. Questa è la storia. Dai, di uno di vabbè, vabbè, noi. Ok, okay, questa anche lui nato per signor Worf, fuoco con i phaser. Ma poi non la sai neanche. Qui la so. Ciao, va bene, allora ragazzi. Vabbè, buona serata, buonanotte. Ciao Michela, ciao, buonanotte. Ciao. Ci vediamo alla prossima puntata dove parleremo di come pulire casa. Che va è una bene. Cosa insomma importante. Insomma... Introduco la questione, perché io ho poco da dire. Introduco la questione così almeno poi dopo vi potete tranquillamente scannare. Dicendo solo alcune cose. Vabbè, in realtà ne abbiamo già parlato in precedenza del fatto che Kurtzman è entrato a far parte del team, anzi è diventato produttore esecutivo, e abbiamo visto anche il regista del primo episodio. Primo episodio che possiamo anche definire dinamico, molto ritmato, veloce, con una qualità visiva sicuramente superiore alla prima stagione. Abbiamo visto anche un cambio tecnico, la serie adesso ha assunto la visualizzazione cinematografica, ossia sì, lo sai che è soltanto per tre puntate, dalla quarta sono finiti i soldi, quindi sì, se continuano così perché per la prima ci hanno speso, adesso noi sappiamo delle cose, potrebbero anche essere molto gonfiate, potrebbero essere vere, potrebbero non essere vere, lo vedremo da quello che comunque poi dopo insomma ci presenteranno le puntate. Per ora noi possiamo solo parlare di quello di cui abbiamo visto. Abbiamo detto insomma, quindi 21 noni, insomma tutto riprende da dove è ricominciato. Secondo me c'è uno stile nelle battute un po' più trecchiano e allo stesso tempo un po' più moderno, cioè nel senso che cominciano a averci quasi un senso. Ci sono le solite grosse incongruenze, però tutto sommato alla fine secondo me lui muore, secondo qualcuno me, morirà secondo me può funzionare. Abbiamo visto ancora troppo poco, esatto, però esatto, diciamo però l'unica siamo cosa, positivi, ecco, l'unica cosa che posso dire io, e qui chiudo la mia, è che se non altro la trama inizia con un mistero che finalmente è l'unica cosa che ci riporta a quello che era un po' l'origine di Star Trek. Che fine ha fatto Carmen Sandiego? No, al di là del Carmen Sandiego, non so manco il cazzo. Ah, sì, ma che è il cartone animato? È una serie a cartoni animati storica della televisione americana che è stata riproposta pure adesso da Netflix. Sì, esatto. ho visto. Infatti, mi veniva stato Carmen Sandiego, ma mi sa che c'era pure un videogioco. Se non mi sbaglio, sì, più di uno. Where's in the World Carmen Sandiego? Per piccoli anni 90, Where's in the World Carmen Sandiego? Cioè, comunque, Star Trek inizia con un mistero da esplorare, da conoscere, roba del genere, e questo insomma c'è. Capitano Pike, cioè, insomma, sta lì, c'è sta questione delle uniformi che è chiaramente un'incongruenza, però insomma, ma come le uniformi colorate, ma come vi hanno dato anche le divise nuove, sono tutte colorate, che sono secondo che riprendo che diventano quelle diciamo un po' della serie classica e soprattutto del reboot di J.J. Abrams come stile, diverse, sì, ma il problema è che è sbagliato, però sono diverse, sì. Sì sì, comunque diverse, ma come colore e impostazione. Sì. Però diciamo suonano anacronistiche in questo scenario, insomma. Vabbè, ma cioè il fatto che ci possano che riprendano le vecchie uniformi belle, tutto ci può male, anche stare, perché se li ridisegni in una certa maniera, il problema è che Pike non c'aveva quell'uniforme. No, era molto No, Pike inizia con quella e poi se la cambia. No, nella serie originale. Nel pilot dove c'è Pike, le uniformi non ci stanno. C'hanno il colletto grosso. Vabbè, già, però ragazzi, il pilot lascia il tempo che trova, perché ancora non è, diciamo, essendo un prodotto diciamo solo di presentazione, poi hanno rifatto tutto. Voglio dire, nel sì, pilot infatti, sono poi, tante poi cose diverse. Chi... Diciamo per non riciclare, sì, cioè ma... per non buttarlo l'hanno riciclato, però in realtà era come Spock se fosse c'era stato ancora orecchia punta nel rideva pilot. Come no, ce l'aveva. Rideva anche, era un po' più marcato il sopracciglione, su questo no. Comunque facciamo un attimo un giro, facciamo una cosa oraria. Marco, Walter, e purtroppo poi c'è Simone. Io parlo di un'altra cosa. Esatto, lui un parla, argomento a piacere. Perché anche tu avrai visto qualcosa che ti... Sì, sì, parlo della farfalla Stuliakis, che ho scoperto essere una specie molto interessante. Vabbè, dopo le parole. Quando ce ne siamo andati a casa. Marco. Allora, prima puntata molto intrigante, bella, non mi ha fatto bestemmia fino adesso. Cioè, già tanto, insomma, non ho trovato. Esatto. Sì, perché poi le incongruenze, quelle di tute, di tecnologia, ormai quelle. Cioè, oramai ci devi far callo. Ci devi far callo. Cioè, è più strana, diciamo, il motore a scorie, per dirsi. Ragazzi, intanto Peppe Rizzard in chat ci dice: ma che cagata pazzesca, però vi sfido un attimo a capire il riferimento. No, dovete guardare in chat, perché altrimenti. Non posso, aspetta. Vabbè, non è che possiamo stare in silenzio. Comunque, in ogni caso, praticamente in alfabeto Morse, Peppe Rizzard ci ha scritto: ma che cagata pazzesca. Ah, bellissimo. L'ha detto a Morse. Una citazione appunto del primo. Quindi episodio. Entra in conflitto con Al 9000, in pratica, perché insomma. Comunque, in ogni caso, abbiamo visto un. C'è una cosa importante da dire: che finalmente, dopo ben una stagione, si sono presentati. Oh, raga, sulla plancia si sono presentati. Io sono io, tu sei tu. Come chiama Mario? Giù, da tanto che si vedeva, si sono mai presentati. Questo però, finalmente. Questo però ti fa capire, perché io questo l'ho detto anche al tizio che fa il telegiornale di Star Trek. Secondo me su questo si vede un po' la differenza anche dell'autore e del produttore esecutivo, perché a Kurtzman gli puoi dire tanto male, però sicuramente rispetto a Orci e tutta, cioè della compagnia di J.J. Abrams è quello meno peggio. Quello meno peggio, cioè nel senso è quello che comunque il mestiere lo conosce. Sì. E quindi lui almeno ai personaggi un minimo di importanza gliela dai, perché come giustamente dice Marco, tu sei stato tutta la prima stagione con dei personaggi che vedevi ricorrentemente. Ma a chi si fio? E non sapevi, ma esatto, di chi si fio tu? Cioè, gente di cui non sapevi neanche il nome, a parte i protagonisti principali, a parte quella robotica lì che non sai, cioè, un giorno ci spiegheranno, no? I protagonisti. Esatto, bravo. No, comunque è stata la puntata dinamica, ripeto, ho paura che si siano ciucciati con le, come si dice, come si vociferava, tutto cioè mezzo budget per fare 3-4 puntate, spero di no, perché se no dalla quinta puntata Vizzi cominceremo a vedere solo primi piani e gente che parla. Vabbè, dai, quindi, non cioè, torneremo, non torneremo alla serie classica fondamentalmente, quindi può darsi che ci piace di più. Non dire? Mettiamo il carro dietro i motori a curvatura, esatto, se no ci bruciamo. Sarà un macello. Comunque no, grosse incongruenze non ce ne sono, sempre lì c'è il motore a scorie che lo stanno a smontare. No, in realtà secondo me lo devono riciclare, perché le famose segnali rossi, che sono 5 o 7, quanti sono? 7, mi pare. Sono 7, sono sparsi per tutta la galassia. 7, sì. Giusto? Pizzi, correggimi. Sono sparsi per tutta la galassia? Mi sembra di sì. Sì, sono sparsi per tutta la galassia. Per tutta la galassia conosciuta allora, perché ovviamente... No, mi sa che tutta proprio la galassia. Tutta. Sì, allora, considerando che per esplorare tutta la federazione... Ma in quell'epoca loro sono già consapevoli dei quattro quadranti? No, però loro hanno ricevuto il segnale dei 7 punti che sono apparsi la galassia la conoscono, oddio, è fisicamente divisa, cioè concettualmente già divisa. No, scusate ragazzi, ho capito adesso come finirà la seconda stagione. Capito adesso, invocano Shenron. Invocano? Shenron. E che cazzo è? No, è morto ancora Krillin. Krillin avrà la tutina rossa. Dai. Sono 7 come sfere del drago, il segnale. Non so di che cosa state parlando. Dragon Ball. Appunto, non so di che cosa stai parlando. Dai. Vabbè. Comunque sono sparse per tutta la galassia. Allora, secondo quello che è il canon, che però a questo punto non so se vogliono rispettare o meno, ma penso di sì, perché sennò veramente sarebbe una cosa assurda. Non ci avrebbe senso il motore a scorie. Per girare tutta quanta la federazione ci vogliono, hanno stimato sui 5 anni e mezzo per girare tutto il territorio della federazione, una nave a massimo dipende poi anni. Federazione in che epoca, perché la federazione 5 anni, metti 5 anni, vuoi fare 4? Comunque insomma non c'è la missione quinquennale, si chiama quinquennale mica perché mica girava caso. Comunque un appattugliamento di tutta quanta la federazione. No, veramente la missione quinquennale, la prima originariamente doveva essere loro andavano dritti esatto, e poi vedremo bravi, che c'è esatto. Però in realtà si conoscevano già con parecchie specie. Comunque in ogni caso, essendo questi 7 segnali per tutta la galassia, scusate, ricordiamoci che la famosa missione quinquennale originale ancora deve avvenire in questo, esatto, in questo momento. No, quella quinquennale no, è Pike. No, Pike l'ha già iniziata, lo era dice sua, pure è la sua missione quinquennale. Ah, ok. Poi Kirk fa la seconda missione quinquennale. Okay, okay. Quindi comunque diciamo, essendo sparsi per tutta la galassia, non potrebbero arrivarci con una nave normale, perché sarebbe precluso, ci vorrebbero decenni e decenni, forse centinaia di anni per cambiare quadrante. Quindi dovranno per forza utilizzare la Discovery con il motore a scorie, che dovranno in qualche modo rimettere in funzione. Ma queste sono tutte teorie tue. Il motore a scorie, per forza, cioè, ma perché... non è che devono raggiungere per forza tutti e sette i punti, prima devono capire che si tratta, solo come che loro vanno nel... raggiungere gli altri, vanno nel primo punto, il primo punto è stato investito da un asteroide, ho capito, ma gli altri li devi raggiungere almeno un altro, cioè non ci metti due giorni, ci metti anni, perché sono sparsi in tutti i quadranti, quindi è un po' complicata. E dovranno ricacciare fuori la Discovery, che è l'unico motivo per cui viene scelta quella nave, perché può dislocarsi un po' ovunque, quindi teoricamente potrebbero viaggiare in diversi quadranti anche in questa vabbè, stagione. Vedremo. Una chiave di lettura, come del resto ce ne sono tante. Io ho notato un particolare. Non è così improbabile, però. Un particolare carino che serve in qualche modo a fare una sorta di, come dire, di similitudine e rottura con l'antefatto della prima stagione. Quando Pike si materializza sull'Enterprise e sale sul ponte, c'è un momento di sbigottimento, perché il computer non lo riconosce. Poi a un certo punto il computer si riprende, lui lo riconosce e lui ci tiene a specificare che io non sono Lorca. Quindi attenzione, perché ci sono tutta una serie di, come dire, di piccoli messaggi che ci possono in qualche modo fare anche pensare. La mia teoria è che probabilmente ci troviamo in un paradosso in cui più continuum si sono incontrati. Ma secondo me no, secondo me gli sfugge di mano. Allora, diciamo che vabbè, questo è ovvio, perché allora diciamo che venendo dalla prima stagione, infatti lui fa, come hai detto giustamente te, lui fa quella precisazione: io non sono Lorca, perché magari lì per lì allora questi hanno perso un capitano. Guardate, gli hanno detto: tu chi sei figo? Esatto, chi sei figo, adesso, hanno perso, adesso un capitano, un capitano che tra l'altro li ha traditi, perché viene da un altro universo o roba del genere. Quindi cioè l'ammiccamento a sta cosa che lui non viene riconosciuto, che tutti non si fidano un po' all'inizio, secondo me è un po' più cercata, cioè nel senso ti vuole indurre a pensare che c'è qualcosa che non va, perché lo pensi ancora di più col fatto che sta cazzo di Enterprise, che è la nave più evoluta della flotta stellare, perché è la super ammiraglio, roba del genere, non solo sei rotta, ma non si può riparare, ma non si può manco riparare, e sta lì ferma, spenta. No, zitta. Non è che non si può riparare, ci vuole troppo tempo. Ok, eppure sta cosa te deve far pensare. Che gli è successo a sta cazzo di Enterprise, che tra l'altro non ha manco partecipato alla guerra? Sì, che era stata messa da parte proprio perché stava nella missione quinquennale. Cioè, diciamo, c'è la guerra, non voi state a fare la missione quinquennale, fatevi i cazzi vostri. Cioè, tutti sti misteri che poi si legheranno sempre al fatto della sezione 31, che purtroppo, secondo me, il vero grosso problema di Discovery è sto vincolo con la sezione 31. Ma purtroppo che dovrà mai essere mantenuto per giustificare lo spin-off con la Giorgio. Purtroppo, proprio tutta quanto Discovery è sezione 31, cioè proprio tutta la nave, secondo me, è nata sotto quella... Sì, la Discovery è necessariamente della sezione 31, anche perché se nessuno poi la conosce dopo... Sì, confermo quello che dice Rizzard, che la velocità massima delle navi a quell'epoca era massima curvatura 6. 5-6, però poi hanno cambiato la scala, vi ricordo, No, diciamo che sulla serie classica hanno fatto un casino. Arrivano a curvatura 12. Lì, sì. Cioè. Vabbè, ma lì sono errori anche di doppiaggio. No. La risetta era pure in lingua originale, lì proprio... Vabbè, tiravano a caso. Fattore 7, 12. È un po' come nelle armi dei robot nei cartoni animati giapponesi anni 70, che cambiavano perché se le improvvisavano lì. Cazzo di gomma, ma che dici? Quella missile centrale, scusate. E così, funzionava così negli anni 70. Cioè, poi anche nei telefilm. Comunque no, posso dire che sono piuttosto soddisfatto. Adesso aspetto di incazzarmi con le prossime puntate. Sì. Vabbè, Parentesina, il comandante Gino Rigg, come si chiama? Chi è Gino? Jet Rigo, come cazzo si chiama? Quella che praticamente trovano sulla nave schiantata. L'ingegnere aerosbotronica? Comandante comunque, mi sembra. Sì, tenente comandante. Bel personaggio. Sì, allora, quello sarà un ricorrente. Io ho pensato che sarebbe diventato il nuovo ingegnere capo In teoria Stamets se ne deve andare. Esatto, però a questo punto che succederà? Tra l'altro io ho sentito l'attrice con la voce originale, è uguale. Hanno trovato la voce italiana, cioè spaccata, identica. Proprio, cioè una cosa veramente tanto di cappello. Comunque quello sembra un personaggio molto carino, quindi molto divertente. Vediamo che ci porterà forse una delle è buone. È un po' Scotti, fa. Diciamo, guarda molto lungo. Ma guarda, stavo a pensare la stessa cosa. Soprattutto somaticamente. Sì, no, secondo me è proprio come ironia. Vabbè, perché quando lui dice: vabbè. Siete atterrati su un asteroide e si sta schiantando contro la nuova. Pensavo che morti. Comunque, l'episodio è stato scritto tra gli altri da Gretchen Berg. Ed evidentemente deve essere sua la chicca, come dire, iperfemminista di quando. Ragazze, che dite? Lo salviamo? Quella volevo meno a mezzo mondo, perché per carità capisco tutto. Però sì, diciamo che d'altronde sulla plancia. Diciamo che Michael Burnham, secondo me, l'hanno un po' scafata rispetto. Sì, da che la settimana prima stagione, si voleva già, esatto, no, perché io so ormai non faccio botte, più. Chiudetemi. Invece qui io spacco il culo a tutti qua, non ve rompete i coglioni, insomma. Ma voi preferite una plancia calda? Una plancia calda a culo o un culo caldo in plancia? Cioè, questo bisognerebbe chiedere a guarda Simo, io una plancia calda in culo ci avrei qualche paura grossa. Perché se ti siedi su una plancia calda, qualche comunque, domanda. Ragazzi, una cosa al volo, non so se abbiamo detto la settimana scorsa, però mi pare di no, anche perché no, ce ne siamo accorti questa settimana. Abbiamo parlato tante volte dei corti, no? Della web series con 4 episodi speciali che sono andati in onda su CBS All Access e che noi non avevamo avuto il piacere di vedere, che spiegano, diciamo, approfondiscono alcuni personaggi. Ma lo sapete che se andate nei contenuti aggiuntivi su Netflix, dove dice trailer e molto altro, li trovate tutti e 4 e anche in italiano. Sì. E noi da un anno che ne parlavamo e non l'avevamo visto. No, in realtà, perché sono stati messi da poco. No, in realtà, non lo so. Adesso io l'altra settimana, quando è che io vi stavo a dire, diceva ragazzi... Qualche giorno fa. Io ho chiamato il nostro ascoltatore e gli ho detto: dato che so tu l'hai visti e ce l'hai o roba del genere, noi in italiano purtroppo non li possiamo vedere, se me li passi, insomma, ce li guardiamo, insomma. E mentre che lui me li mandava, io li mandavo a Marco e tutto quanto, così, boom, sono andato, stavo a leggere su un sito Trek per leggere le ultime notizie, dice: da oggi disponibili tutti e 4 i corti in doppiati in italiano. Ah, che quindi cazzo? Prima non c'erano? No, il giorno, cioè, stesso in quel momento. Quando valevano di meno gliel'hanno presi, cioè, l'hanno veramente messo a 3 giorni dalla pubblicazione della prima puntata. Tra l'altro questi corti in realtà sono 5, però uno è solo sui DVD, è solo sui DVD ed è quello sulla Giorgio. Praticamente, insomma, te spiega la come Giorgio buona no no è con cattiva. Lei che entra ufficialmente nella sezione 31, quindi però questo è soltanto penso che che è praticamente la parte tagliata dalla vecchia stagione, probabilmente, cioè sì, dove sì. Arriva il Trilin, che in realtà è un umano della federazione camuffato, che poi dà il distintivo, penso che poi è quello che gira su internet. Comunque ragazzi, ci dice Peppe Rizzard parlando della che sta bestemmiando sul personaggio dell'ingegnere, dice dice, fa riferimento: io sono ingegnere, so leggere, quindi squarto a destra a manca, mentre Bones non sapeva neanche come cazzo stavano messi i Klingon, dice, vabbè. Sì, però, vabbè ragazzi, cioè, voi dovete sempre considerare che stiamo a parlare di una roba di 40 anni fa, che comunque, cioè, allora 60 anni fa, se parliamo stavo dicendo Simo, per la serie classica ormai sono 60 no anni però fa. Lui fa riferimento a un film in particolare, che è l'ultimo film con Kirk, dove praticamente c'è stato il complotto, esatto, quindi praticamente loro poi fanno morire il cancelliere e lui va lì per cercare di salvarlo, ma lui non si ricorda com'è l'anatomia dei Klingon. Allora raga, stiamo a parlare comunque della fantascienza molto più ingenua rispetto a oggi, che chiaramente non è giustificabile che tu sei comunque un membro della flotta stellare e non conosci la flotta spellata. Ma addirittura c'era nella serie classica proprio, c'era il fatto che lui non sapeva curare neanche Spock, se per questo Spock. Eh no, perché nel doppiaggio italiano diceva Spack, sì. Non si è mai capita poi perché sta cosa. Poi Spack, signor Bottiglia. Spack Bottiglia e Mazza Famiglia. E lui non sapeva perché l'anatomia dei vulcani era diversa da quella dei terrestri. Cioè, nel senso, se vai a vedere. Invece ci facevano presente prima, cosa che noi tra di noi ce la siamo detta, che praticamente non muore quello con la tutina rossa, ma muore quello con la tutina blu. Che era pure uno stronzo. Che è un modo, secondo me, di Kurtzman di spezzare una tradizione. Un messaggio ben evidente rivolto agli appassionati, quindi non allo spettatore casuale che non lo capirà, perché tutti quanti in quel momento diremo: ah, vedi, c'è quella con la tutina rossa, porella, porella. e invece muore quella tutina blu. Esatto, che tra l'altro lo preparano pure, perché che quello come appare già destato cazzo. Posso dire che quindi... comunque anche in questa stagione tendono tutti a fare come cazzo vogliono, cioè lei è un ordine, no non è un ordine perché io posso salvarla, e allora va bene. Si tenga, segua Burnham. No, faccio come cazzo. Ho dato un ordine, ma sti cazzi, faccio come cazzo. Tipo come cazzo. Sì, è vero. No, ma io la posso salvare, va bene, ok, allora lo faccia. Comunque, detto questo, giustamente Rizzard ci dice: vabbè, ma l'ingegnere che fa Dottor House, allora, cioè lei te lo spiega, fondamentalmente. Ci può stare, perché è proprio la battuta alla Trek, cioè proprio ne abbiamo viste tante durante gli anni di questa cosa. Io sono ingegnere, so leggere, e lei giustamente dice: il corpo è una macchina, io quello gli devo far pompare il cuore, gli costruisco una cosa, cioè voglio dire, abbiamo visto anche de peggio su Star Trek. Potremmo anche basarci sull'assunto che è un diciamo è un personaggio tecnicamente più bravo di McCoy, perché il fatto che McCoy sia il medico dell'Enterprise non lo fa diventare il miglior medico della Federazione, magari quella nella sua sua rudezza è più brava. Ricordavo se McCoy era uno e mezzo ubriacone, insomma. Sì, sì, vabbè, e chi non lo era su quell'Enterprise? Ma infatti lei, tra l'altro, non è che cura lei li stabilizza. Infatti lei ha applicato idraulica, non medicina. Esatto, lei li stabilizza tutti i feriti in maniera che... Oddio, a uno gli ha lasciato il cervello in vita fuori dal corpo, però no, era il cuore. No, ci sta. Sì, io l'ho detto, non ho visto niente che possa essere veramente inaudito. Cioè, su una puntata di Voyager, il dottore olografico mette un cuore olografico all'interno del corpo di uno. Cioè, però deve stare attento, perché se respira più di un millimetro, quello si sposta. Vedi, no? Alla fine è fantascienza, cioè, ragazzi, non è che dobbiamo starci un pochino. Che poi non capisco perché se il cibo olografico te lo puoi mangiare e ti nutre, perché quello replicato di fatto è cibo olografico, dopo perché non puoi avere... Quelle sono proteine risequenziate. Fai il cuore col sintetizzatore alimentare. Che poi proteine risequenziate, mica è solo quello, perché anche tutto quello che loro realizzano con le divise, per esempio, lo vediamo anche in questa serie, che stampano divise a iosa con i replicatori, quelli sono oggetti indossabili a tutti gli effetti, allora fai anche un cuore temporaneo con la stessa tecnologia, no? Beh, infatti loro comunque quella è materia risequenziata, che non è proprio la stessa cosa del teletrasporto, comunque... Se tu vedi su The Next Generation quante volte loro replicano i pezzi che gli servono per aggiustare cose, sì. Perché comunque vabbè, un po' quello prende anche, diciamo, spunto dalla stampante 3D di oggi, no? Cioè, nel senso, c'hai l'opportunità di replicare oggetti che ti servono in funzione di... Vabbè, comunque queste poi sono un po' quisquiglie alla fine, se vai a vedere. Però devo dire che a me comunque la prima puntata non mi è dispiaciuta. Diciamo, Molto bella da vedere da un punto di vista tecnico. Anche visivo, nel senso, sì. È molto cinematografica, non soltanto per il formato visivo, ma anche proprio per il livello di qualità delle scene. Soprattutto la prima parte ci sono delle scene di salvataggio degne, diciamo, anche di un film di Star Trek. Non sono da sottovalutare. Beh, sì, in proporzione a quanto costano oggi rispetto a quanto costava prima. Ci siamo trovati a dire che probabilmente c'è tutto questo sfoggio di tecnologia che risulta esageratamente anacronistico rispetto a quello che ci ha abituato Star Trek in anni successivi, però ci deve stare, non possiamo farci niente. Da una parte è anche necessario per attirare un pubblico, diciamo, contemporaneo, quindi va benissimo. Vediamo, speriamo. Per adesso non ci sono più riferimenti ai rapporti con i Klingon, se non Lorel, che viene citata perché è stata interpellata su queste sette... Adesso lei è l'alto cancelliere, quindi vediamo cosa succederà con i Klingon. Che ci saranno, coi capelli. Vedremo come saranno e cercheremo anche di capire com'è che in una... ora come ora, diciamo, la guerra con i Klingon non c'è, perché c'è stata, l'abbiamo vinta, come dicono in Federazione. Abbiamo pareggiata, più che altro. No, c'è stato l'armistizio. Sì, l'armistizio, però, insomma, vediamo cosa e perché, se lo spiegheranno, farà riscattare la guerra, perché ricordiamo che durante la missione quinquennale di Kirk, di fatto, i Klingon e la Federazione non sono in guerra esplicita, ma non sono neanche in pace, quindi vedremo quale sarà l'evoluzione della storia. La situazione che c'è adesso, insomma, c'è un armistizio, stanno con la... però non... Sì, diciamo che per ora non si incurano, poi dopo nel periodo dei Kirk i Klingon ricominciano a fargli... Beh, dice Peppe Rizzard, spoiler, arrivano i Kelpiani perché fanno il brodo? Può essere. No, comunque, Rizzard, se tu hai visto i quattro corti, vedrai che forse non arrivano i Kelpiani. No, non arrivano i Kelpiani. Proprio che, anzi, quella è un'eccezione. Che poi, tutto sommato, gli dà anche un po' un senso. No, io volevo dire un'altra cosa, ma mi sa che me la sono scordata. Sono quindi... le 22:53. Abbiamo fatto le due ore canoniche, ragazzi. Vabbè, comunque, dal trailer che abbiamo visto della seconda puntata, si può intravedere che visivamente ancora siamo sugli stessi standard. Quindi, almeno per la seconda puntata, stiamo a posto. Ricordiamo agli spettatori e agli ascoltatori, non proprio, diciamo, informati, ecco, che a differenza dell'anno scorso, in cui arrivava di lunedì la puntata in italiano, quest'anno arriva, esatto, il venerdì mattina alle 9, salvo errori di doppiaggio. Quindi, per quando arriva mercoledì oggi, a me siamo già stemperati, siamo già... No, non solo, avete avuto 5 giorni per vederla, se non la vedete vi beccherete lo spoiler, fine. Vale. Padre e sorella, vabbè ragazzi, adesso... Allora, Simone invece ci voleva raccontare... Io ho visto così, poi chiudiamo. You su Netflix, che ah, ecco, serie, bello, bello, bello, bello. Thriller. Bravo. Allora, devo sessuale. Dire. Sessuale. Sì, no. Sì. Praticamente racconto proprio i primi minuti di storia. Questo Joe lavora in un negozio, in una libreria. Ah, non fa l'orologiaio? No. Però vedi, peccato, sempre questi lavori abbastanza. No, capito. Adrian l'orologiaio. Ah, ok. No, ah, perché l'Adrian fa l'orologiaio. Però diciamo è un po' l'orologiaio della situazione. Cioè vende i libri, però li aggiusta anche a una teca. Cambia le lettere, rimette quando si rompono. Sì, cambia le pagine, quindi fa rimette le parole che saltano. Esatto, sì, vabbè. Poi entra sta ragazza in libreria, vabbè, buona questa, va dietro, inizia a flirtare, no? Tanto con dei dialoghi... Cioè, da come si veste, capisce che personalità... Prende, questo qua è uno stalker. Per cui diventa letteralmente ossessionato da sta ragazza e inizia a seguirla. Questi sono letteralmente i primi 5 minuti. E diventa una cosa veramente seria. Poi vabbè, sono tutte delle storie secondarie, vari avvenimenti. E tutto incentrata sul rapporto che c'è tra questo Joe e questa ragazza, che all'inizio non ci sta, da qualche impressione, poi diventa una cosa seria. E ne voglio parlare perché in realtà è una serie che ha diviso molto, da quel che ho visto, critica e pubblico. Cioè la critica tendenzialmente tende a snobbarla, sì, a bocciarla. Tende. Sì. Sì, infatti io non sentivo parlare abbastanza male. Ho letto una recensione in cui addirittura dicevano: in questa serie tipo non si salva niente, non c'è niente di buono da dire. Ma secondo me Adrian sempre? Sì, sempre. Secondo me è esageratissimo, cioè assolutamente non è un capolavoro, non è super originale. Insomma, la storia a volte è anche un pochino stereotipata, qualche scena, qualche dialogo è una messa merda. Lì per la dica a me, no, una merda. Sì, no. Cioè, voglio dire, fermate. No, una merda, no, cioè, ma se tu che lo stai a dire, mica noi. Quali sono, no, i lati positivi? Vero. Vabbè, questi sono, diciamo, ok, le, come dire, dall'altra parte, l'altro buono della medaglia invece è, beh, la storia, perché pur non essendo super originale, comunque l'effetto thriller te lo dà. Cioè, almeno io avevo continuamente voglia di vedere la puntata successiva per vedere cosa succedeva, più che altro per vedere se succedeva quello che pensi tu, perché ti dà gli indizi per capire quello che sta per succedere, però sai che comunque è tutto un gioco di imprevisti, per cui insomma a me ha preso molto. Poi anche gli attori a me sono piaciuti molto, l'ho vista in italiano perché vabbè doppiata, però in italiano secondo me è doppiata molto bene in italiano. Chi l'ha vista in inglese ha detto che questi attori sono molto bravi e comunque a me hanno dato un'ottima impressione. E tra l'altro hanno già confermato la seconda stagione, quindi... Sì, devo dire che negli ultimi 6 mesi, diciamo forse un po' di meno, la qualità del doppiaggio è risalita in generale, perché c'è stato un periodo all'inizio di Netflix che secondo me hanno dovuto doppiare talmente tanta roba tutta insieme che all'inizio c'era veramente la merda su Netflix come doppiaggio. Devo dire che la qualità in generale, lo vedo anche su Star Trek, comunque la qualità del doppiaggio è... Ma è un guarda, po' ora non so quanti prodotti Netflix ha dovuto doppiare direttamente e a quante, diciamo, cooperative di doppiaggio insieme si è rivolta. Però quello che ho notato per un certo periodo, ma secondo me questo è un problema non solo di Netflix, l'ho trovato abbastanza generale, è che sentivi accostate a svariati personaggi diversi stesse voci, lo so, vabbè, questo è un problema che... Era un problema atavico dell'era di Ferruccio Amendola, che si fosse un po' superato, e poi è tornato prepotentemente. Sì, perché per quanto alla fine tu, cioè, per quanto siano tante le voci, comunque alla fine vedi talmente tanta roba che è inevitabile, insomma, se finiscono per incontrare. E aprendo e chiudendo una parentesi, noi dobbiamo dedicare parte di una prossima puntata al doppiaggio. Devo convincere un mio amico che lo fa di professione a venirci a raccontare un po' di dietro le quinte del mondo del doppiaggio. Ci fa anche qualche jingle così. Con l'occasione gliela proponiamo. Abbiamo una pubblicità. Quindi Juve e Simone è consigliato, quindi da domani per me sì, io consiglio almeno le prime due puntate, poi boh, valutate voi. Poi dopo fa schifo. Ma tu l'hai finito da vedere? Sì, l'ho finito. Quante puntate so? Sono o 9 o 10 adesso. Mamma mia, sono tantissime. Queste puntate. 50 minuti. Tra l'altro è arrivata. Ha scritto Adrian, praticamente tutto. È arrivata la seconda stagione di American's Gods. Che però ricordiamolo, è su Amazon Prime Video. Che è su Amazon Prime. E siccome che io, Marco, Michela, sì, mi sa di sì. Vabbè, lo vedrò. No, ma lo vediamo insieme. Sì, stavo... prima in inglese e poi in italiano. Ma deve vedere prima in inglese, sì, no? Allora noi la vediamo e fa quello che cazzo. No, io vengo a rivederla. No, e sì, ho capito, posso star sbagliando. Vabbè, litigate in privato rompe. Perché noi altri vogliamo andare a fare le cose nostre. Guarda, la guardi in italiano e poi dai, guardi in inglese. Cioè, no, dai, dovevamo vedere la seconda. Ragazzi, puntata di Adrian. Io con l'occasione vi vorrei rivolgere a tutti una buonanotte. Salutare in chat Peppe Rizzard, mazza quanto ha scritto Rizzard, scrollo c'è solo lui, Al9K, Leo Arjon, vabbè, Lalla, tutti quelli, Pai, ci sono tutti quelli che ci hanno fatto compagnia, anche quel 1,5 milioni che di stanno zitti, che stanno buoni lì, che non hanno avuto il coraggio di ammettere che hanno visto Adrian. Allora, non vi dico che potete fare le donazioni su PayPal perché ci sono delle trasformazioni in atto in questo momento, quindi andate su www.runtimeradio.it, cliccate sulla campagna Runtime Anch'io e da lì potrete trovare i modi per poter sostenere il progetto di Runtime Radio, se volete, non è un obbligo, lo sapete, insomma, però sostenere significa praticamente però darci... devi dire Runtime, la radio geek, Runtime, la radio geek. Detto questo, invece io ovviamente saluto Marco Gualdi. Ciao, vi saluto, alla prossima puntata di Discovery. In inglese però. The next puntata of Discovery. Ok. Saluto Walter Sbano. Buonanotte a tutti, mi raccomando, ogni lunedì c'è Adrian. Salutiamo l'eroe della serata che da Milano è tornato in studio, Simone Gusella. Ciao, io sono già tornato a Milano nel frattempo. Simone, i treni sono veramente una bomba. Gusella, ah, guarda che Pizzi ti ha detto da Milano. Vabbè, non rispondo. C'è ragione. Dopo, è meglio privato. Ecco, ok. Buonanotte a tutti, alla prossima puntata. Ciao.